Carissimi amici di Runtime, siamo quasi pronti, siamo per arrivare. Questa è una sorta di prediretta che faccio per dare il tempo, insomma, a tutti, anche i miei compagni di avventura di questa serata, insomma, di accomodarsi nelle loro rispettive posizioni e poi, insomma, iniziare questa nuova puntata di OGM, che questa sera, insomma, è, diciamo, in questa prediretta, siamo qui, diciamo, ci approcciamo quasi con tono gioioso e allo stesso tempo anche con tono triste, però vabbè, questo poi lo affronteremo durante la trasmissione. Come dicevo, questa ovviamente è una prediretta, vedo che stanno arrivando le tisane, che è l'unica cosa che ci possiamo concedere. Noi non possiamo più fare le dirette con l'alcol che ci alcolizzavamo, insomma, non si può fare più niente, il mondo è cambiato e ci ha reso un po' più tristi. Ci sono i miei compagni che penso che si stiano accomodando, giusto? Assolutamente, non ti volevo rattristare ulteriormente, ma ho mangiato due supplì, due crocchette di patate e mi sono bevuto una birra. Così. Sì, l'abbiamo visto. Vabbè, la birra potrebbe essere interessante, anziché no, e tutto il resto. Così, nel caso, posso dire che non ero in me se durante l'intervista dico qualcosa di strano, eh. No, vabbè, ma è sempre più, è anche più bello, insomma. Questa sera addirittura, pensate, c'è anche Michela, così. Salve a tutti! Ciao, Michi. Per la prima mezz'ora, diciamo così. Intanto si sta sistemando il microfono, perché farlo prima era la grazia. Potrebbe esserci anche la mia gatta che si lamenta un po' lontano dal microfono, qualora la sentiste, quindi siamo sempre di più. Benissimo, benissimo, ok. Allora, ragazzi, io direi che manca un minuto. Gli altri ci sono? Perché vedo c'è anche un Puccio. Ci sono. Vabbè, ho capito, però se lo dici così allora non c'è venì. Infatti. No, ragazzi. Francesco e Marco. Io capisco, Puccio. Michela, grazie. Lo so che su di te posso sempre contare. Cioè, invece di essere contenti che ci siamo scrollati di dosso il lunedì. Che è andato questo lunedì, è andato, sì. Vabbè, ragazzi, ma ancora non anche siamo questo lunedì, se lo siamo levato dalle parti. Esatto, si sentono tanti rumori modesti dal microfono. No, sì, è che Michela che continua a mettersi il microfono per traverso, non so per quale ragione. Poi dopo gliel'ho sistemato e si è anche indignata che l'ho sistemato, sì, quindi abbastanza. E vabbè. L'importante è che se lo metta per traverso. Esatto, che Madonna, tu la domenica, quando finisci di fare mono, lascialo lì in quella precisa posizione e poi quando torni lo ritrovi. Eh sì, certo. Ma più o meno è così quello che succede. Ma questo è il mio, scusa? No, questo è mio. Il mio? Sta lì. Eccolo. Ah, eccolo là, ok, scusate. Vabbè, perché... ma comunque bestemmiate gli tutti i bestemmi, esatto, che avete. Allora, ragazzi, io direi che è arrivato il momento. Runtime Radio presenta OGM. Sono veramente bellissimi momenti, ragazzi, queste cose che però, come giustamente ha detto il nostro amico e compagno Walter Sbano. Sì, vai, sì, ciao. In effetti ho interrotto un po' quello che stavo... Volevo salutare tutti quelli che mi conoscono. Che come dice giustamente il buon Walter Sbano, sta siglava un po' incicita, insomma. Ah, ok, questo no, non sapevo dove volessi andare a parare. Qualcuno spieghi a Marco Gualdi come entrare in chat, non so, cioè, non so se no, sta... No, ha scritto io microfono, non so cosa, forse si sta ancora... Forse lo può provare. Ma con calma, Marco Gualdi, con molta, molta, molta. Dato un microfono vero? Cosa è successo? Sì, ho dato un microfono USB. Ah, finalmente, va, meno male. Io ho a condensatore, non so come lo terrà in mano, perché va piano piano, comunque lui, microfono. Salutiamo anche... Se lo tieni in mano, non si confondesse, non facesse cose che non deve. Beh, è nero, no, dai, non si può confondere. Allora... Nei suoi sogni. Sì, piacerebbe... Io non va cazzo microfono, ci dice in chat. Vabbè, sta perdendo anche l'uso dell'italiano scritto. Non può non andare, l'ho provato ieri, cioè l'ho usato ieri io. Quindi, se quello USB l'ho usato all'epoca anch'io per provarlo, e garantisco che funziona. Se tu vai su Skype nelle impostazioni in audio e gli dici di usare il microfono USB. Microfono USB. Vabbè, facciamo errore, dice gli da errore. Dai. Vabbè, lascia perdere, Gualdi. Io saluto Zio Mischi, saluto Stefano, saluto Enrico, saluto Vargion e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando in diretta in questo momento. Tra l'altro Stefano, per esempio, dice che la sigla è bellissima. La sigla è bellissima. Se vuoi dopo te la facciamo anche risentire, insomma, però sì, ma... 3, scusa, facciamo questi omaggi ai nostri ascoltatori. Ma io avevo pensato di fare un concorso dove tutti devono mandare una cosa di OGM cantata, un verso, roba del genere, e con tutto quello che arriva ci facciamo la sigla definitiva. Una canzone carina, la montiamo e viene fuori. Tanto sicuramente verrà un bel prodotto radiofonico. Infatti, e salutiamo anche Lobby Frontali. Salve a tutti, ragazzi. E comunque, sì, anche io propongo questo contest, diciamo. In realtà contest non è perché faremo contenti tutti in qualche modo. Sì, no? E poi non c'è niente in palio, quindi... No, c'è in palio essere la sigla di OGM. Mica cazzo. Raga, inutile che ci provate, in tutti i modi ci provate. Ma basta, state facendo un plagio di quelli indescrivibili. Cioè, c'è solo l'Eliangolo, c'è solo il jingle dell'Eliangolo. Diciamo che l'Eliangolo ha dato il via a questa cosa. Poi dopo noi... Consapevole. Perché esatto. Siete dei copioni. Brasiliano? L'Eliangolo è la fantastica rubrica che si trova all'interno di Mono, gestita interamente dal cuciniere, con la sigla più bella del mondo. Esatto, che adesso in questo momento non ho portato in mano. Scusate, io perché alcune puntate di Mono confesso che... L'angolo all'interno di Mono dove Gianluca presenta tre brani, diciamo così, quindi si chiama L'Eliangolo. No, cioè. Eli perché... Ma era su Elio, è tutta una storia che è nata da Davide Gatti. Cercavo di dare un connotato alla parola Eliangolo, che magari detto, allora Eliangolo non nasce dall'Elio, cioè un giorno praticamente Davide Gatti, una notte di follia. Sì, lo sentiamo, attenzione, Gianmarco Gualdi. Oddio mio. Se la qualità è questa, era meglio se non c'era. Riprovi, Gualdi. Sì, ma paga la bolletta del telefono comunque. Guarda, nelle impostazioni di Skype devi andare a dirgli di aumentare un po' il tuo volume, le tue impostazioni. Nelle impostazioni. Vabbè, però io ti sento comunque, dai. Comunque ti sento. Vabbè, comunque. Ricordati che dicono in chat che siamo un po' bassi. Giusto, sì, sono tutti un po' bassi. Dicono in chat, Enrico, che io e Walter siamo un po' bassi. Ecco, adesso. Io sono 1,68, Walter è pure. Qualcosa in meno, quindi figurati. Adesso siete al top del top, ragazzi. 1,74 sono alto qua in mezzo. Faccio cazzo, sì. È la prima volta che mi capita della vita, ragazzi. Io sono 1,72. No, in ogni contesto, quello basso sono io, non vi preoccupate, vinco io. Vabbè, comunque, gran casino questa sera. Possiamo finire di presentare anche i nostri ospiti, ossia Carmine Puccio. Ciao, ragazzi. E Michela De Paola, che è qui con noi. Ciao a tutti. E chiaramente anche Marco Gualdi, se riuscirà, insomma, a interagire con noi. Certo, in qualche modo. Certo, che se Marco Gualdi deve parlare come... Io lo sento, Marco Gualdi. Io il volume non lo trovo qua. C'è scritto microfono, basta. Okay, no, vabbè, adesso ci siamo. Secondo me, se parli nel punto giusto e non lo allontani sistematicamente, ce la facciamo. Ma io sto a 5 mm da. Ma io non ti sento, infatti, io ti sento bene. Fra poco, Bravo, bravo. Quello deve essere. Il microfono è fatto bene. Ho queste bellissime prolunghe che mi permettono di camminare, andare in giro con il microfono, cosa che voi vi sognate, ragazzi. Vabbè, per il lockdown, l'abbiamo pensato per il lockdown, in modo che potrei andare alla finestra e dirci cosa succede dalla famosa da qual diverso. Il problema è che da questa finestra succede un cazzo, perché cioè, la faccio su un parcheggio. Quindi. Ma come il bang? No, scusa, ma aspetta. Forse mi sfugge qualche dettaglio. Sei a casa Marco Gualdi o a casa MG, a casa mia. Grande, ma allora questa è la sera dei miracoli, fai attenzione. No, regà, cioè, non gli dà diretta, si è trasferito soltanto per evitare. Ma perché devi rompere i coglioni alla gente, scusa? Perché lo so che non succederà mai sta cosa. No, vabbè, non pretendevo che dormisse lì solo soletto. Senza no, ci dorme, dormi, certo. Non ci mangia però. Non copri fuoco. Ci mangio anche a volte ci mangia anche. Basta però che ci porti le donne, Marco. Però c'è sta il lockdown. Non posso e neanche. Non le chiudere dentro perché se questo è rimangano a dormire. Cioè, se rimangono a dormire, te dà fastidio, troppa confidenza. Poi vabbè, se poi dopo il giorno dopo dicono che gli ha messo il Rufus nel drink, non è colpa mia, era per farle dormire. Esatto, è che certo. Sei un fan di Bill Cosby, praticamente. De Bill Laden anche un po'. Esatto. Anche. Va di moda, cioè, ultimamente va di moda questa cosa. Fare le feste, portarci le diciottenne e poi fare esatto. Quello che vuoi. Comunque, io vorrei attirare un attimo la vostra attenzione anche per entrare un attimo nel vivo della trasmissione. Facile.it. E vabbè, basta con questo facile umorismo. No, ragazzi, scusate, vedo brutta stasera. Abbiamo anche una doppia denuncia. È l'inventore di subito.it, se non sbaglio, quello che stiamo accusando, non quello di facile. No, di facile. facile? Sì, infatti sì, lo diceva facile, tu sei facile. Facile.it. Vabbè, vabbè, comunque. Ragazzi, è successa una cosa incredibile. Negli Stati Uniti c'è stato un cambio di presidenza. Questo lo dice te. Questo lo dici te, infatti. Per ora. Molti negli Stati Uniti stanno gridando perché si preoccupano del fatto come compagno dei lavori, io magno, ti ricordi? Però no, non usurpare, non giocare con i sentimenti. Lo so, ma è Gualdi che è un cretino, che vuoi? Però comunque molti si preoccupano negli Stati Uniti perché dopo che Testa Rossa ha perso, anzi Testa Roscia, Testa Arancione, dai, facciamo così, arancione, ha perso, praticamente molti sostengono che in America arriverà il socialismo, e questa è una cosa... Certo, pieno così dei socialisti, pensavo tutti fuori dalle mura della Casa Bianca a spigne. Comunque Trump non ha perso, perché bisogna contare i voti legali. Allora, ragazzi, ma quali sono questi voti legali? Ragazzi, valgono solo i voti di chi ha votato per Trump. È così la regola, no? Io però posso dire una cosa semplice. Adesso facciamo un attimo un recap di quello che è successo, poi dopo ci ridiamo anche un po' sopra, perché sapete, ci sono anche questioni musicali, no, da affrontare. Questa sarà una puntata di giochi, no? Capisci? Cioè, nel senso, bisogna, perché bisogna dare anche un ritmo poi alla trasmissione quando si fa radio, no? No, ho messo questa perché mi era più facile, ma dopo quando verso la fine la mettiamo, perché sennò poi dopo interrompiamo troppo, troppa roba sarebbe da ascoltare stasera, però non lo facciamo. Quello che insomma è successo è che alla fine pare che ufficialmente Biden abbia vinto queste benedette elezioni presidenziali. Biden e Harris come vicepresidente. Ok, vabbè, se no non è... Se no niente culerò. Vince il presidente, poi il vicepresidente si accoda, diciamo così. Sì, poi, sì, però la quando squadra... Quando il vicepresidente mulatto che ha già preso... Mulatta, anzi... Però che già posso preso. Dire una cosa in questo caso, Simone, non perché sia mai... Non ho già massimo rispetto, però fossi Kamala io studierei bene da presidente, perché non so. Ma secondo me, infatti, il tempo oggi, quando ha fatto quella cosa, insomma, dicendo che la vice mulatta di Biden, insomma, no, ha rosicato una cifra di Libero, sì. Libero, scusa, Libero. C'ha ragione, scusa. E praticamente, insomma, in realtà si rendono conto che c'è questa, anche questa probabilità, sai, 4 anni sono lunghi, possono succedere tante cose, e quindi magari c'è... Pensa che c'è uno che fra 4 anni sta pensando di candidarsi, devo fare dei nomi? Chi? Ah, sì, un arancione. Quello che voglio dire io è che Trump non solo non ha accettato praticamente la sconfitta, ma sta facendo tutta una serie di azioni e ostruzioni legali, perché dice che questi voti non contano. Però oggi ha fatto una... è di farlo settimane prima delle elezioni. Sì, sì, era già tutta una strategia, esatto. Non sarebbero contati. Per quello sembra proprio un messaggio tra le righe implicito della serie: ragazzi, qua c'è da negoziare la mia buona uscita. C'è da negoziare la mia salvaguardia anche un po', più che altro. Con il pieno di benzina. Esatto. È una valigetta con $1 milione in biglietti da piccolo taglio non segnati. Però oggi Trump ha fatto una dichiarazione che tutto sommato la possiamo un attimo contestualizzare. Ha detto che questi problemi di irregolarità sono un po' sistemici nel tipo di modo di votare del sistema elettorale americano. Allora, se così fosse, perché in questi 4 anni non ti sei preoccupato di fare una riforma elettorale? Che è una bella bello, chi sei? Guardi. Oh, mamma mia, inquietante. Perché non ce n'è bisogno di fare. Cos'ha dietro luminoso? Cos'è quel quadrato luminoso dietro Waldi? Madonna, Marco, ci metti. Vabbè, stiamo facendo, è come se fossimo in chat in questo momento. Ok, sì, scusa. Chiederei soprassedere, insomma. Soprasediamo. No, ma anche perché c'è inquietantissimo. Esatto. Ah. Insomma, sì, ecco. Soprattutto perché stavo parlando io, quindi ci sono io in evidenza, il mio è bruttissimo questa cosa. Quindi, perché secondo voi non ha fatto questa riforma elettorale, insomma, e si è preoccupato solo... Perché non c'è bisogno. Perché ti lamenti nel momento in cui il problema impatta su di te. Avesse impattato sull'avversario, come è successo, ad esempio, ad Al Gore... Nello scontro con Bush Junior, allora sarebbe andata bene, no? Quindi perché lamentarsi prima? Lamentiamoci quando il problema è nostro. Se il problema fosse stato dei democratici, non era un problema. Sì, sono d'accordo. Però facciamo un giro d'opinioni. Cosa pensate? No, al di là del giudizio Biden, no, perché poi dopo alla fine, no, cioè, nel senso, a noi un po' ci fa piacere, perché onestamente, no, nel senso, a noi come trasmissione ci faceva ride, ci dava tanti temi, no, però insomma dei problemi ne ha creati tanti, no? E non ha smesso, cioè secondo me continueremo, diciamocelo, ci ha dato da magnà, che poi pure oggi pare che abbia licenziato il capo del Pentagono, no? Sì, sì, Pentagono. perché lui fino all'ultimo deve distruggere, no, qualche ma lui cosa, deve distruggere tutto quanto. Secondo me lui ha detto, stamattina si è svegliato, ha detto datemi la valigetta che ne tiro un paio, e il capo del Pentagono deve avergli detto no, guardi, non si può fare, e lui l'ha licenziato. Sì, ma guarda, non, nel paradosso non fatica a crederci ci sia questa eventualità, guarda, perché potrebbe secondo essere. Voleva tirare una piccola su casa di Biden. Allora, partendo da Francesco, piccola. Poi avevano imposto la no flight zone nel sì, vabbè, quella la volevamo andare per posta. Partendo da Francesco, dai, cosa, allora, diciamo che qual è la tua sensazione in questo momento? Cioè, proprio così libero, un pensiero libero sul fatto che, se non altro, Trump se lo siamo levato dai coglioni, per ora. Ma giusto la felicità che non se lo siamo levato dai coglioni, in realtà. Questo è il fatto. Se ne sentiamo parlare anche per un bel po' di tempo, credo. Non solo quando, fino al 20 gennaio, quando legalmente praticamente subentrerà per forza di cose Biden, ma lui non fino all'ultimo insisterà che non sarà stata sua la sconfitta, diciamo. Secondo me una soluzione c'è, e c'è un precedente, nel senso Dallas, che voi, no voi non sapete Giovanni le macchine scoperte, no c'è un precedente più tranquillo che non include la violenza. Voi non sapete, ma anche non ufficialmente, gli Stati Uniti hanno avuto un imperatore nel 1800, tale Norton I. Sì, praticamente questo che era quello che ha fatto il Norton Commander, poi, no, giusto? No, questo imprenditore fallito, che a un certo punto si sveglia la mattina, che era davvero diventato quasi un barbone, si dice: mo mando una dichiarazione al giornale locale che io mi dichiaro imperatore degli Stati Uniti d'America. E la gente è stato uno dei primi meme della storia, forse, perché davvero poi la gente gli è andata appresso, diciamo, ha fatto le sue missioni diplomatiche, diciamo, era ben voluta. Aveva una sua moneta che vendeva ai turisti che lo andavano a trovare. Sì, fece anche delle missioni diplomatiche in Brasile, al re del Brasile. Tra l'altro il re del Brasile e il re dell'epoca delle Hawaii lo riconobbe come vero re. Tra l'altro il re delle Hawaii si chiamava Kamehameha V, quindi tutto torna. Il cugino di onda energetica, diciamo. Esatto. Sì, alla fine gli facevano fare... È diventato pure... Tipo, lo facevano mangiare... Era ben voluto, facevano mangiare a gratis, faceva... Che era quello che voleva, poi. Non so scopo. Aveva pure detto, ma qui bisogna fare un ponte tra San Francisco e l'altra parte. E lo fecero successivamente. Disse pure, ma qui ci vorrebbe un'istituzione mondiale che coordini, diciamo, che a lei tutte le popolazioni del mondo, diciamo. E questa cosa l'hanno fatto un bel po' di anni dopo. Quindi era un veggente, fondamentalmente. Sì, un visionario. Lungimirante, dai. Visionario. Sì, però disse che alla fine, quando morì, ci fu un bel circa 10.000 persone parteciparono al corteo funebre. Quindi è un... Secondo me una cosa del genere si può fare anche con lui. Ok, hai perso, però tu ora sei l'imperatore del mondo, ok? Attenzione, perché lui già è un imprenditore fallito, quindi... Plurifallito, esatto. Anche plurifallito. Io mi ricordo che c'è una puntata di Better Call Saul in merito a questo, che c'era il tizio un po' funge anche da critica, no? Perché sai che ci sono questi ultraconservatori americani che non riconoscono il sistema, no? Cioè non riconoscono il governo, no? E c'era sto tizio che praticamente ingaggia Saul perché praticamente lui vuole portare avanti la sua idea di stato autosufficiente, no? Cioè, se tu insomma mi aiuti in questa mia campagna, io ti pagherò 3 milioni. Ah, 3 milioni, ah, che bello, un milione e mezzo te li do in anticipo. Quando lui va al primo colloquio con sto tizio, che gli spiega un po' tutte le sue teorie assurde e via dicendo, quello gli tira fuori la valigetta, ecco, questo è il primo milione e mezzo. E con la sua valuta. Il milione e mezzo era dei soldi suoi, praticamente. Quindi ah, sì. Non valevano assolutamente un cazzo, insomma. Guardi, invece tu che ne pensi di questa situazione? Merda, merda. Siamo persi Gualdi di è sparito nuovo, Gualdi. Vabbè. Gualdi, microfono nero tra le questo mani. Vivere a casa sua, insomma, gli ha dato una libertà emotiva poi ti mando enorme. Un asset che devi tenere preparato per queste evenienze, devo trovare. Aspetta, scusate, posso fare una domanda per chi è stato a casa Gualdi nuova? Ma sì, ha fatto, che è sempre la stessa, si è messo la tazza del cesso rock, quella che suoni come in Vado a vivere da solo. Ma guarda, io l'ultima volta che ci sono stato, e non è neanche tantissimo tempo fa, non funzionava la tazza del cesso. No, infatti c'è la tazza, potete pisciare. C'è la tazza del cesso che è normalissima. Dopo essere stata per qualche mese casa Gusella, ma soprattutto c'ha, comunque, c'ha il divano più scomodo del mondo. Ok, ci posso provare. Gualdi! Non va. Whip. Gualdi! Madonna, questi sono proprio gli asset artigianali proprio, eh. No, però funziona. Ma Gualdi che fino a... Vabbè, non si sa. Vabbè, allora, Puccio, qual è il tuo? E poi Walter e poi Michela. No, io sono veramente contento che se lo siamo levato dalle palle, cioè perlomeno che per ora lo abbiamo levato da una posizione in cui poteva fare danni. Io ripeto, cioè, se eccolo, non so mettere sì, anche adesso... cifre considerevoli, tipo anche 10-15 euro, che quello tra 4 anni ce lo ritroviamo alle prossime elezioni. Sì, Gualdi sta cercando di rientrare in diretta, ma la situazione è assurda. Ha premuto continuo invece di... Pronto. Sì, le sentiamo, sì, sentite, no, sentiamo. È caduto improvvisamente il microfono. Ho come l'impressione che internet a casa tua ci abbia qualche problema, ma è da qualche mese che lo sostengo. No, devi farti dare più internet. Il microfono che ha fatto errore. Hai avuto un problema con un microfono per caso? Sì. Ma secondo me il tuo computer lo rifiuta perché essendo nero il microfono non lo accetta, capito? È nero anche il PC, è nero la stira, è nero il mouse, è tutto nero, quindi secondo me dovrebbe andare bene. Allora rifiutano te. Vabbè, comunque eravamo rimasti a Puccio. Il rigetto. Sì, stavo dicendo, io sono pronto a scommettere cifre considerevoli, tipo 10-15 euro, che questo alle prossime elezioni nel 2024 ce lo ritroviamo davanti ai coglioni con un partito suo personale, che magari non sarà un partito, sarà un movimento. Ma secondo me no. Ah, dici? Sì. Cioè, candidare lo sta già dicendo adesso. Sì, no, che i repubblicani lo vogliano buttare nel Mississippi con una pietra molto pesante al collo. È probabile, secondo me, ve la lancio, o diventa l'editore del concorrente di Fox quanto a fascismo, che si chiama OAN, il One America Network, o diventa il loro editore, comincia a fare tipo il telepredicatore e poi si candida, o comunque andrà con un partito personale tra 4 anni. Ma guarda, leva voti soltanto ai repubblicani, lo facesse pure, a quel punto ci divertiamo. Io gli do anche dei soldi. Ma guarda, io sul discorso del partito non credo tanto. Io so che nella sua carriera, perché voi sapete che poi lui ci ha provato diverse volte, è stato indipendente anche nei democratici lui. Quindi, all'inizio sì, cioè le prime volte sì. Quindi cioè, alla fine lui si presenta come indipendente, usa il partito come appoggio, così come tanti candidati si presentano all'interno del partito ma come indipendenti, che poi succedeva, andava di moda così anche negli anni 80 pure da noi, no? Che cioè, l'indipendente col Partito Democratico della Sinistra, no? Cioè, nel senso, erano tutti, cioè, faceva figo sta cosa, no? Poi in realtà sappiamo, avendo un po' analizzato, vabbè, lo sapete che io poi scavo perché mi piace sempre un po' così, sappiamo che in America in realtà c'è una costellazione dei partiti, però poi fondamentalmente i due partiti principali sono quelli che schiacciano completamente la politica, perché c'è questa visione totalmente bipartitica, no? Cioè bipolare, diciamo così. E infatti per ora anche se però per tradizione non è che non... pure prima non esistessero i partiti, esisteva il Partito Liberale, esisteva il Partito dei Verdi, c'era pure il famoso partito, quello delle casalinghe, non so se vi ricordate, no? C'è anche il tuo Partito Comunista. C'è anche il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito Socialdemocratico, ci sono tutti, però poi alla fine, quando c'è la massimizzazione di quello che è il sistema, alla fine finiscono per confluire, diciamo, come indipendenti o come supporter o come appoggio anche esterno in uno dei due grandi partiti. Quindi chi è di centro, tra virgolette, sinistra va sui democratici, chi è di centrodestra va nei repubblicani, insomma. Quindi questa è un po' una cosa, però questa volta ha fatto un po' eccezione, perché un partito in particolare, che è quello dei liberalisti, poi tra l'altro, ragazzi, liberalisti, ragazzi, cioè nel senso che praticamente andandomelo a studiare un po' su Wikipedia pare che questi vedono il capitalismo come fonte estrema, cioè che lo Stato non deve influire in alcun modo all'interno di quella che è la politica del mercato. Simone, se ti interessa, c'è un nutrito gruppo all'interno del Twitter italiano, sono in realtà 4-5 persone di estrazione, facoltà economia di varie nazioni, alcuni laureati in Italia, altri fuori, sono un circoletto che si dà ragione a vicenda, sono dei esattamente afferenti a quella sfera politica, se li leggi spesso ti metti le mani nei capelli, perché in altro no, me lo mangio, non lo mangio. Pure... No, cioè, lo mangio perché comunque la terza candidata comunque che alla fine comunque ha preso più voti, la Joe Jensen, che è il 2%, che alla fine comunque all'interno del Jameson? No, Marianne Jameson. Comunque alla fine si è portata via un sacco di voti a Trump, eh? Cioè nel senso alla fine a Trump il danno gliel'ha fatto, diciamo così, perché quando te porti via 10.000, 20.000, 30.000 voti all'interno di uno Stato e quando per 30.000 voti tu perdi quello Stato, diciamo insomma alla fine... Il chicchero un po' ti rode. Un po' te ce l'ho del culo, no? Nel senso... Diciamo che... Anche molte persone le ha perse, perché secondo me molte persone rientrano in quei quasi 250.000 deceduti da Covid, volendo fare un bel po' di umorismo cattivista. Però molti avevano votato prima. Prima beh, insomma, morire. Non è che sono morte 250.000 persone negli ultimi 10 giorni, no, si parla dall'inizio dell'epidemia. Io infatti ho detto qualcuno, mica ho detto tutti. Ah, sì. Se prendi sì, però il sito non avrebbero CNN, cioè c'è una casistica dei morti, dei voti dati a assegnati fatti, a persone decedute. No, a parte quello. Cioè ci sono due casi che erano stati reportizzati, che ho trovato interessanti. I casi di quelli che hanno votato per corrispondenza in anticipo e sono morti. Per esempio riportava il caso e di una ragazza. Stato per Stato in realtà, non c'è una direttiva nazionale. Stato perché per non stato dovrebbero valere? Regolati. Tu eri vivo al momento dell'espressione del voto. Sì. Però per esempio alcuni stati tipo la Florida non ha considerato, si parla veramente di 20-30 casi, quindi stupidaggini. Però per esempio la Florida li ha dichiarato quei voti nulli. E altri stati invece li hanno. Sai, non sarei neanche d'accordo, perché in realtà non è che ti arriva il voto di uno che, nel senso, nel momento in cui ha votato è morto, allora dice ok, che è una frode. Ma se una persona è viva nel momento del voto, cioè il voto in teoria sì, è valido, però loro, cioè... per esempio, per alcune legislazioni locali, devi essere, anche se hai votato prima, devi essere vivo il giorno delle elezioni, che sono. Perché? Non si sa. In questo caso, oggi è il 3 novembre, quindi il primo martedì, vabbè. È come se io oggi vado a votare il sindaco di Monterotondo, dopo 10 minuti muoio, la sera negli scrutini dice no, questo levalo perché è morto dopo. Ah, dico, sei votato in anticipo. Vabbè. Mi è venuto in mente il momento triste di Bianco Rosso e Verdone quando sì, sta pensando Zoralella la stessa cosa. Zoralella, sì. La cabina elettorale. Ma che... Tanto doveva votare comunista, quindi, insomma. Eh sì. È un altro caso... Un altro caso che è stato anche oggetto di svariate teorie del complotto è quella nella presenza delle liste elettorali di nati intorno al 1800 e qualcosa, che quindi teoricamente dovrebbero essere morti da mo'. In realtà poi è stata, cioè nella stessa pagina in cui era riportata sta cosa c'era la spiegazione nel data room dei siti delle varie campagne elettorali, che quelle sono date fittizie assegnate a persone sotto protezione o perché vittima di violenza domestica o perché collaboratori di giustizia, perché pare che sia capitato che siano state individuate queste persone perché si mettevano gli stalker o chi voleva far fuori a spulciare le liste elettorali che sono pubbliche, cercando le date di nascita. Quindi hanno dovuto applicare per... Beh, certo, se metti una data retroattiva del 1800, lo stalker il sospetto non gli viene. Sì, ma va a capire chi è. Vabbè, ho capito, ma quanti ne troverai nella lista elettorale di riferimento? Perché pare che sia qualche migliaio. Francesco? Sempre parlando di teorie del complotto relative a ci stanno rubando i voti, sono voti illegali, una di quelle che è più diffusa, che è stata anche diffusa dalla nostra Salvini, carissima cheerleader. La cheerleader Salvini, come è stato il titolo del secolo, la cheerleader di Trump italiana, diffonde fake news, è il fatto che in Georgia effettivamente dicono la Georgia ha 3 milioni e 700, quasi 4 milioni di abitanti. I voti arrivati dalla Georgia sono 5 milioni. Strano. Vaglielo a far capire che oltre alla Georgia, stato degli Stati Uniti, esiste anche nell'est Europa un paesino di circa 69.000 km quadrati, denominato anche lui Georgia, a confine tra Russia, Azerbaigian, Turchia, Mar Nero e un altro stato che non mi viene in mente, che ha circa quella popolazione, mentre la Georgia degli Stati Uniti ha circa 10 milioni di abitanti. E voglio far capire che esiste quest'altro stato che è effettivamente ha quel numero di quella popolazione, no? Ma comunque prendere un posto per un altro è una cosa che è andata di moda questa settimana. Soprattutto per un parcheggio, soprattutto vogliamo parlare di aspetta, ci arriviamo. Michela, tu invece hai festeggiato, visto, hai festeggiato ripetutamente anche. Beh sì, io sono veramente al settimo cielo, perché per me, vabbè, a parte che ci siamo tolti Trump dai scatole, bisogna vedere come saranno mesi di fuoco, però diciamo che Biden non mi sembra per niente preoccupato di come caccia Trump dalla casa. Ragazzi, quindi ci va tutto bene. Sì, è morto, solo ancora non ha smesso di muoversi. Esatto. A chi? Biden. Non è così morto comunque. Questo dice lei, insomma. No, vabbè, ma è pagato di suo, sicuramente era così anche a 30 anni. Chi ti paga? No, ma io lo... Così? Sì, volevo, vai, tu vai che... No, in realtà non è così morto come può sembrare. Anzi, io l'ho seguito abbastanza negli ultimi mesi. Ho cercato di capire sia lui che la Harris come si ponevano di fronte a, oltre i diversi dibattiti, anche di fronte alle problematiche che si sono comunque concatenate e create negli ultimi 5 anni, non che prima l'America non ci avesse una serie di problemi, no, però comunque una cosa che c'è sempre stata in America e che comunque ci hanno sempre tenuto molto, anche a livello diciamo così di storia e cultura dell'America, è la dignità delle istituzioni e di chi rappresenta le istituzioni. Almeno questo l'ho imparato studiando, insomma, sono laureata in lingua e letteratura anglo-americana. Diciamo che loro erano molto legati a quello che è un po' l'immagine istituzionale, soprattutto magari anche della presidenza, no? Quindi, ma in realtà il presidente non solo ha un'importanza dal punto di vista strategico e politico ed esecutivo, ma è anche il capo dell'esercito in determinate condizioni, ma soprattutto è comunque, cioè voglio dire, il punto di riferimento, no? Anche se magari alcuni ci potranno avere una politica piuttosto che un'altra, insomma, diciamo che a parte rare occasioni, diciamo che insomma c'è sempre stata un po' di decenza, dai, cioè perlomeno tentativi di essere decenti. In questo caso, no? Cioè, diciamo che ci sono delle prima mi veniva, adesso non c'è comunque. Ci sono dei punti imprescindibili in cui loro non transingono, quindi cioè in cui l'America non... Poi certo, raga, cioè, arrivano dalla Mayflower, cioè sono reietti dell'Inghilterra che sono arrivati in America e hanno fatto quello che hanno fatto, ok. Però comunque c'è una storia di decenza o comunque una sorta di continuità che comunque è stata spezzata in questi 5 anni. Sì, c'hanno anche la storia di indecenza, però anche indecenza, senso. Certo, anche sì. Scandali e quant'altro, genocidio, schiavitù, sì. Guerra civile, comunque una nazione nata con la violenza, quindi alla fine però è nel loro DNA, è anche giusto che ci facciano i conti con questa cosa, cioè con Trump non si poteva parlare di acquisizione dei diritti dei neri, Trump perché i neri, cioè niente, nel senso non vabbè, guardiamo quello che massimo diritti degli arancioni, sì, quindi come ha detto la Pelosi una volta, all white matters, cioè ha detto per lui contano solo gli italiani, solo i bianchi. Ma in realtà poi, cioè, se uno conosce un po' la storia di Trump, che ok, poi adesso come dice giustamente Walter, a cui diamo la parola, un po' secondo noi forse si è rincoglionito in realtà poi magari lui comunque persegue degli interessi di alcune lobby molto forti e molto potenti. In realtà, cioè, Trump poi va dietro, cioè, nel senso, lui trasforma anche il suo atteggiamento, il suo cioè il suo comportamento a secondo di chi dietro comunque lo ha trascinato ad arrivare a determinate posizioni. Perché, diciamo la verità, Alvin Trump di diventare presidente degli Stati Uniti, che cazzo gliene fregava, se non perché magari dietro c'era un disegno suo o comunque delle persone che l'hanno messo là. Perché... Però anche l'immagine, cioè, di una persona che comunque va ad un comizio e comincia a prendere per il culo un disabile, scusate la parolaccia, cioè fa il verso un disabile. Beh, c'è anche chi prende in braccio un nano dicendo che bel bambino, che bel bambino. Cioè, ti vengono i brividi. Sì, ma quello magari manco se n'è accorto, cioè lui invece l'ha fatto proprio di proposito, cioè questo vi fa capire di che persona, di che caratura stiamo parlando. Oggi la politica è questo, cioè, facciamoci i conti, perché oramai sono anni che è un po' così. Walter, ma che Trump sia un personaggio grottesco lo sapevamo da ben prima che diventasse presidente degli Stati Uniti. Se qualcuno ha seguito anche per sommi capi il programma in cui credo fosse The Apprentice, in cui lui faceva il datore di lavoro, esatto, lì si vedeva il lato più verosimile di Trump, che è veramente un personaggio fuori da ogni schema da questo punto di vista. Poi imprenditorialmente parlando deve la fortuna alla generazione precedente, alla sua, al padre sostanzialmente. Lui da parte sua invece è stato veramente pluri-bankrupted, pluri-broke, quindi non è esattamente... Beh, però parla come Magni, cioè nel senso... Sì, è un bancarottiere seriale, diciamo così. Non è uno che del fatto che abbia potuto creare tanto denaro poi sia stato in grado di capitalizzarlo positivamente. Si è sempre salvato per il rotto della cuffia, e probabilmente ad un certo punto è nata la necessità di salvarsi imprenditorialmente nell'unico modo che poteva funzionare, che poi ci ricorda insomma i trascorsi di più o meno 20 anni fa in Italia, perché è un pochino la stessa epopea di Berlusconi. Arriva un momento in cui per salvare le tue aziende e il tuo futuro, quello che fai è cercare di plasmare le leggi a tuo uso e consumo. Sfrutti il fatto di essere un personaggio mediatico, di poter manipolare l'informazione a tuo vantaggio, eccola là, ti candidi e con buona fortuna riesce anche a vincere, quello che è successo a lui, che poi ha vinto di un soffio, e probabilmente ha vinto anche perché gli americani ancora non riescono a scardinare un caposaldo della cultura, che non è esattamente quella pari opportunistica che ci vogliono far credere. E quindi quando si è trattato di votare per lui o per una donna, probabilmente molti se al posto di Hillary Clinton ci fosse stato un maschio avrebbero votato democratico, si sono tappati il naso e hanno votato repubblicano. Ora, in quel caso specifico di 4 anni fa, io dico che Trump ci ha fatto vedere veramente il peggio del peggio, ma continuo a sostenere, a pensare che se avessimo avuto Hillary Clinton presidente degli Stati Uniti in questi 4 anni, ci sarebbero state nel mondo più guerre di quante non ce ne sono già, perché lei era un pelino interventista, mettiamola così, soprattutto fino a quando si tratta di fare le guerre lontano da quella che è i confini americani. Ecco, quindi insomma, detto questo, questa volta il candidato avversario di Trump è stato scelto con una certa cura. Ricordatevi che 4 anni fa lo stesso Biden sarebbe dovuto essere candidato democratico, ma a seguito della tragedia della morte del figlio preferì rinunciare. Adesso probabilmente è stato convinto dal partito stesso a rimettersi in discussione, a rimettersi in gioco, perché a me Biden sembra quella figura abbastanza pacata e abbastanza acquacheta, che può dare la possibilità al Partito Democratico di racimolare anche qualche voto di una serie di repubblicani completamente distrutti emotivamente niente dai 4 anni di Trump, sapendo di dare il voto ad un esponente sì del partito avversario, ma poi fino a un certo punto, nel senso che lo dicevamo nelle nostre chat in questi giorni, io non vedo Biden esattamente come un progressista, lo vedo come un moderato che sicuramente ha a cuore certi valori sui quali Trump ha proprio urinato in questi 4 anni, quindi la prima cosa che dovrebbe fare Biden, se tutto va bene, sarà tornare negli accordi del clima di Parigi, tornare nell'OMS e così via. Quindi insomma ci auguriamo che alcuni dei danni di Trump li rimetterà a posto il prima possibile. Tra l'altro la mossa furbissima, sta già lavorando con una task force anti-Covid, anche se non è ancora stato formalmente confermato e non si è ancora insediato, perché ovviamente il mandato di Trump finisce a gennaio, lui però si sta già muovendo in maniera tale da creare una rottura. E Trump, per fortuna, da questo punto di vista è più simbolico, no, come atteggiamento, cioè cercate di far vedere che c'è un'inversione di tendenza. Già oggi il governatore di New York comunque ha parlato di un nuovo lockdown, quindi tant'è che Trump si sta trovando sempre più solo, perché a parte un paio di esaltati come lui, uno alla volta, anche Mitt Romney e altri esponenti importanti del mondo repubblicano lo stanno lasciando da solo, e pare che anche il genero e la figlia, quindi Jared Kushner e Ivanka Trump, stiano cercando in tutti i modi di convincerlo ad accettare la transizione. E un'altra notizia di oggi, che però viene da fonti un po' più gossipare, quindi non so se dargli adito, direbbe che anche Melania ha fatto le valigie. Ora, non lo so, questo è ininfluente. La questione che da guardi che ce l'ha le valigie pronte. Pronte. Però insomma, diciamo che... Secondo me manco ci abita. A questo punto è auspicabile che tutto si risolverà e si esaurirà con la transazione che dicevamo. Stanno negoziando sotto banco per avere il salvacondotto. Una volta che Trump sarà sicuro che, lasciati i poteri presidenziali, non verrà arrestato dall'FBI un quarto d'ora dopo, allora se ne andrà tranquillo e pacioso, tanto alla fine un uomo egocentrico come lui il potere lo trova anche in altre cose, quindi continuerà a fare l'imprenditore. Beh, tipo a Costa Rica, ma in Costa Rica se candida come presidente del Costa Rica. Ma se lo compra il Costa Rica, se vuole. Ma già se lo so comprato, perché è un protettorato. È un protettorato americano. E poi dopo lo fa fallire. Ovviamente. No, io dico lui di tasca sua, nel senso come principato, proprietà privata. Come Trumpia, ecco, sì. Trump. Comunque io vorrei, diciamo, noi quella che è stata la politica di Trump un po' l'abbiamo seguita, insomma, durante gli anni, scherzandoci, durante questi ultimi 2 anni in particolare, da quando esiste OGM, anche se questo pare che è il terzo anno, detto, pensate che roba, ma chi ve lo fa famo? Infatti sì, boh. Però diciamo che il fatto che l'America si sia anche un po' isolata, abbia incrinato tutta una serie di vasti rapporti internazionali. Lo dico io cosa ha incrinato. Però alla fine, la cosa che un po' ci lascia un po' più perplessi, perché evidentemente noi la prima volta, o perlomeno io, quindi parlo di me, la prima volta quando c'è stata la campagna che poi alla fine ha portato Trump a diventare presidente degli Stati Uniti, che schifo Trump, vabbè, però nel senso alla fine era un presidente come un altro, si vedeva che era un po' più, diciamo, fuori dai righe, però insomma, tanto voglio dire, gli americani ci hanno avuto Bush, ci possono avere pure Trump, diciamo, spinto dalla caponaggine, esatto. E invece guarda un po', si è rivalutato completamente Bush. Esatto, è diventato uno statista incredibile, esatto. Che tra l'altro gli ha telefonato e gli ha detto: "Ce ne vai, per favore, dai, per favore, faccia figura di merda, dai." Bush ha chiamato Trump per dirgli, per favore, con le buone, te lo dico con le buone, perché se no poi tu devo dire con le cattive. Tanto fuori. Mi viene in mente, ragazzi, una vignetta che probabilmente Carmine conosce bene, di quando Ratman prova a fare a botte con Kenshiro. Kenshiro, per una cosa come 12 vignette di seguito, gli fa la tecnica dei 100 pugni. Wata, wata, wata, wata. A un certo punto arriva uno dal pubblico che gli batte la mano sulla spalla e fa: "Basta, dai, basta." La stessa cosa. C'era del pane secco, tra l'altro. Esatto. No, dicevo che fuori dalla Casa Bianca nelle ultime ore la folla è sempre, tra l'altro, Covid è tutto spiano. No, vabbè, la folla è sempre più ampia, e c'è solo una frase: "Go away, go away." però la questione del Covid, secondo me in America oramai il danno è fatto, cioè nel senso, ho capito, però se anche nella percezione anche del democratico che capisce che c'è un problema, secondo me oramai negli Stati Uniti, avendo comunque passato piuttosto muoio, basta che te ne vada. Posso dirti, facciamo subito un parallelo con casa nostra, non è una questione americana, ieri era una bella giornata, guarda quanta gente per strada scellerata c'era a Roma, ad Ostia, in città di mare, no, come anche Palermo, a Bari, anche a Napoli e Milano, tutti liberi e sciolti, molti senza mascherine, assembrati come nulla fosse, era una bella giornata, sono usciti, è come se ormai si fosse persa, ci siamo talmente assuefatti al rischio che lo prendiamo completamente sotto gamba, quindi, e infatti il cerchio si sta stringendo sempre di più. Oggi leggevo che anche Nicola Porro si è beccato il Covid, quindi insomma non ce l'ha già avuto, lui a dire, non è vero che è un'influenza, non ce l'ha già avuto il Covid, ce l'ha già avuto, ti parli a marzo-aprile, sì. Io no, stavo non leggendo... è che stiamo parlando di no, cioè se Porro ci ha già avuto il Covid è un'altra persona, è stato un lapsus. No, però... no, io stavo leggendo di Nicola Porro, quindi... No, ce l'ha già avuto. Se lo becco già... Però la notizia è di maggio. Toscana, zona arancione, ci dice il cucinello. Ah, marzo, spaccio. Scusate, sì, chiedo scusa. Allora hanno rimesso... vabbè, ma allora vergognati, che sì. Cazzo, dai, fuck news, qui... Toscana, zona arancione, ci dice il cucinello da spazio profondo che ci raggiunge in chat. Comunque, volevo dire che invece questa campagna elettorale che abbiamo seguito... poco uguale, perché alla fine sti cazzi, no? Però, a parte i dibattiti, no? Quello parlava un po' balbettando, quello ci faceva sta stupido, insomma, al di là di questo trasciume veramente imbarazzante che ha portato forse la nazione più potente del mondo a essere, e comunque, anche... raga, c'è la Harris, cioè io questo volevo dire, poi... Ora ci arriviamo . All'Harris, sto finendo di un discorso, che però poi alla fine sta campagna elettorale ha portato Trump a fare quello che io chiamo l'effetto Alemanno, anzi... Se fosse Star Trek, si chiama la manovra Alemanno, ossia acchiappa tutto e tutti, cioè proprio gente che esce fuori da, come gli zombie, dal nazista alla setta religiosa. Cioè, vogliamo parlare di questa cosa? Francia o Spagna, basta che se magna. Eh sì, cioè nel senso, ma cioè, la cosa del uno c'è scritta sopra. Però lui ha ammiccato veramente a tutto il voto estremo senza farsene nessunissimo scrupolo. La cosa del rito, cioè raga, è una cosa, ma ne volevo parlare, che poi dopo se vuoi la facciamo risentire, cioè perché la versione la Paola White con la base di Eminem, ragazzi, è fantastica, però cioè nel senso, ne volevo parlare di questa cosa. Vabbè, ma nella cultura americana questo tipo di fomentatori, questo tipo di santoni, non so neanche come definirli. Sì, ma le presidenziali ci sono sempre stati, e che stavolta veramente è stato come piovere sul bagnato, quindi ha reso una situazione già ridicola di per sé ancora più ridicola. Ma credo che ci siano stati anche nelle precedenti tornate elettorali. Te la rimetto perché è bellissima. No, Bush figlio ce ne aveva di telepredicatori. Ah, quindi cioè, nel senso, ce ne sono precedenti anche nei Stati Uniti, cioè anche nei presidenziali. Ma è una cosa normale. No, vi ricordate la? No, che questo tipo di cose sia normale negli Stati Uniti, io sono d'accordo. Che sia addirittura a livello di campagna presidenziale, non pensavo. Cioè, nel senso. Ah, vi ricordate il gruppo di evangelici che stava dietro Bush figlio, Condoleezza Rice, eccetera? Ah, se girate su YouTube stanno le messe in suffragio cantate. Ragazzi, per catturare il voto dei popoli bifolchi, questo è altro. Che poi c'erano pure la Guzzanti, cioè no, Corrado Guzzanti con... non mi ricordo con chi fosse la... Gnola, con... Sì, vero. Con Marina Massaroli. Ah, sì. Ma in realtà Michela lo sa, perché insomma i primi anni ogni tanto tornava a casa e mi vedeva davanti alla televisione a vedere questi, cioè, perché sapete che tipo i neocatecumenali, oppure come si chiamano questi che hanno costruito la chiesa qua, i mormoni, cioè abbiamo i mormoni, testimoni di Geova d'Europa. Voi sapete che in America c'hanno un potere anche economico importante, c'hanno dei network televisivi, no? E alla fine queste cose vengono riportate anche in Italia, tradotte in italiano. Poi mi pare che Marco mi aveva detto una volta che pure tua madre si rivedeva questi qua, no? Che signore, che viva il signore, ignore, alvami. Esatto, la parabola dell'uomo che va perso la S. Beh, sì, già vedo la madre di Marco. Vabbè, uno dice: vabbè, passano a manetta. No, comunque sui canali privati, soprattutto epoca pre-digitale terrestre, c'erano questi imbonitori, c'erano i personaggi da cui Guzzanti aveva tratto Gnacchegnola, c'erano gli originali, adesso non ricordo come si chiamavano. Eh sì, perché praticamente prima prendevano quelli americani e li traducevano, li doppiavano in italiano, no? Esatto. E poi hanno preso proprio sti tutizi americani che parlavano italiano e facevano la stessa cosa, erano un uomo e una donna, che infatti Guzzanti poi ci ha fatto il verso sopra. Insomma, vabbè, ragazzi, io penso che... Ma qualcuno mi sa dire, perché io veramente non so niente di sta setta Canon, Quanon, come cazzo. Quanon, vabbè, è una è un movimento recente nato sull'onda del complottismo, dell'estremismo di destra, l'estremismo il suprematismo bianco camuffato da altri, condito con altri varie forme di negazionismo. Questo è Quanon. Poi io mi sono fermato a quello, non so se Francesco o Carmine ne sanno di più. Più Carmine, che mi fece leggere anche, diciamo, sì, no, io ho studiato. Vai Carmine. Dammi solo un secondo che mi è partito il microfono. Ok, intanto Michela. Intanto Michela ci voleva. Giustamente, però, dà spazio anche alla vicepresidenza, perché sì, c'è un valore storico, sta cosa. Sì, ovviamente è la prima vicepresidente donna in America, e come ha detto lei, sarà la prima, ma non sarà. Sì, forse sarà la prima, ma non sarà di certo l'ultima. E quindi questo è un grande passo. Che sarà anche la prima presidente non direttamente eletta, diciamo. Esatto. Vabbè, ma questo non è detto, veramente. No, vabbè, la stiamo a tirare tanto. Anche perché, cioè, comunque, se avete visto un po' la storia di quest'uomo, è sopravvissuto a tutti, cioè a due figli, a una moglie, cioè, quindi comunque porta pure un po' sbiga, insomma. Sono gli americani un po' se stanno a grattare i coglioni. Ma guardi, c'è. Niente, non si sa, guardi. È scappato. Nel frattempo non mi funziona il microfono. Scopriremo che casa di Gualdi è maledetta. Faremo un nuovo format di OGM, allora, incentrato sugli eventi psicosomici. Allora, ragazzi, andate tutti quanti, quelli che stanno ascoltando questa trasmissione, andate su www.runtimeradio.it, cliccate su Anche Io, donate 10 euro non sul Patreon, ma sul PayPal. Perché compriamo il microfono e scrivete una cosa, scompriamo una cuffietta col microfono a Gualdi, così almeno gliene compriamo una bella. Ma io non ho capito, ma pure la cuffietta col microfono gli dobbiamo comprare. Io di comprare, cioè, se i nostri ascoltatori lo fanno, insomma, noi poi la compriamo volentieri. Insomma, vabbè, comunque qualcosa, cioè, il problema non è il mezzo tecnico, secondo me lì è la risorsa umana che non funziona. Sì, esatto, è sempre tra la tastiera e la sedia. Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo. Vabbè, quindi insomma, che quindi vogliamo super, dire? super Kamala Harris, che come dice Francesco, probabilmente nei prossimi anni la vedremo ancora più partecipe. No, nei prossimi anni, mesi. Dai, ma è già comunque membro, diciamo così, membro effettivo della presidenza, nel senso che oltre ad essere vicepresidente comunque lavora fianco a fianco con Biden, quindi secondo me hanno lavorato molto. Posso a fare il massaggio cardiaco in caso di... Esatto, ma lì sta lì apposta. È tornato Gualdi, l'infermiera mulatta. È semplicemente la prolunga dell'USB. Adesso l'ho attaccato direttamente con un altro. Cioè, ha fatto male. Oh, abbiamo capito qual è il problema. Questo ci fa veramente. Quindi molto non piacere. Ti dobbiamo più comprare un microfono con una cuffia. No, basta che mi comprate la prolunga USB, che costa 2-3 euro. Quindi allora compratela da solo, no? No, non sono povero. È povero. Ma tipo, se usi quelle 3.0 su quelli 2.0 muore tutto. Quindi. Esplode. Insomma, vabbè, Puccio ci stava per dire di sti Quannon. Che... Sì, allora io quando incontro un gruppo di deficienti vengo immediatamente attratto, proprio tipo buco nero, e inizio ad approfondire il livello di idiozia che si può raggiungere. So, proprio ecco, perché sei su GM. Sì, deve essere per quello. Io sono stato proprio attirato come un buco nero. Cioè, io ho avuto un periodo della mia vita in cui veramente me li sono studiati tutti e ho avuto paura. Comunque, qua non è un fenomeno veramente particolare. In pratica, sono venuti fuori da un'altra bufalona gigantesca che si chiama Pizzagate. In pratica, qualche anno fa è venuto fuori che in una... Ah, pizzeria, sì, ma ricordo la storia, sì. In una pizzeria gestita da un simpatizzante del Partito Democratico, tra l'altro gay dichiarato, sposato con un altro uomo, bambini adottati, cioè, insomma, una persona particolarmente aperta ai diritti civili, nella pizzeria di questa persona, che è una sala giochi, venivano rapiti dei bambini e poi tenuti in celle sotterranee e estratto l'adenocromo. Ah, la storia! Un sanatone fenomenale, cioè proprio gigante. Tra l'altro, questa pizzeria un sotterraneo non ce l'ha, quindi non si sa se i bambini dove li dovevano tenere. La sala giochi non esisteva. Vabbè, tutta una serie di. Tra l'altro, questa cosa ha avuto dei risvolti interessanti perché a sto poverino un matto gli ha sparato. Pronto? Sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Sì, sentiamo. Non è che facciamo finta di ignorarti, che sta parlando, quindi. Però tu mi dovresti spiegare, mi senti? Sì, sì, ho caso. Sì, dai, finitela. Comunque, diciamo, devi spiegarmi, uno, come estraevano l'adenocromo, cioè facendogli paura. Cioè, sì. Cosa serve questo adenocromo? Serve a mantenersi giovani. No, ma come, perché devi utilizzare degli aghi, delle cose strane per mettergli paura, quando basta semplicemente che li metti al buio? Comunque, a parte quello, o basta poi, fargli vedere Trump, cioè. Qualcuno gli ha spiegato che l'adenocromo si produce in laboratorio, cioè, sì, e bisogna... si può tenere tranquillamente. Sì, gli hanno spiegato, dicono che quello dei bambini è magico, è meglio. Oh, vabbè, sì, è meglio. Quindi da tutto questo si è sviluppato un culto, nato perché inizialmente su un sito, in realtà un gruppo di discussione che si chiama 8chan, che tra l'altro è noto per aver ospitato immagini, insomma, non proprio salutari di pornografia infantile, un tizio che si firmava Q ha iniziato a lasciare quelli che chiamava drop, cioè tipo profezie di Nostradamus, in cui annunciava quello che poi è stato chiamato il grande risveglio. In pratica, che cosa sostiene sto tizio? Che alle nostre spalle c'è tutto un movimento guidato da Trump, che fa da volto del movimento, è tutta una serie di politici puliti e vertici delle associazioni più alte americane, tipo CIA, FBI, che sta facendo dei rastrellamenti di questi pedofili assassini. Sì, no, è vero. Tra l'altro sono tutti... Ci sono i post pure in italiano, ce ne sono una cifra di gente. No, c'è qua in Italia. Pedosatanisti, chiamiamoli con il loro nome, pedosatanisti. Sì, è vero, hanno usato questa cosa. Tanto riconoscibili dal fatto che usano scarpe di colore rosso. Ho letto in un post. Pensa che coglione. Vabbè, perché sta cosa? Vabbè, sì, il fatto della simbologia è fantastico. A questo poi si però sono mi fa venire in mente le babbucce di Prada che usava Ratzinger. Mo non sì, vorrei ma credo fare che l'inizio sia quello. Okay. Penso che l'inizio sia quello. A questo poi si sono agganciate tutta una serie di altre pseudoteorie del complotto, tra quelle spaziali, cioè il fatto che esista una NASA segreta, tipo quella di Barney, la SNASA, che porta avanti i veri programmi aerospaziali del governo americano, di cui noi non sappiamo niente. Andando proprio più in là nella follia, soprattutto in questi giorni, quando Trump le elezioni, contrariamente a quello che pensavano i qua, non le ha perse, sono state trovate varie escamotage per giustificare il fatto che poi i drop, cioè le profezie, non si avveravano. Tipo, com'è che Trump non ha vinto le elezioni? No, non vi preoccupate, in realtà queste sono elezioni di facciata, perché Biden, la Harris, gli Obama, i Clinton, non mi ricordo chi altro, in realtà sono stati tutti arrestati 6 mesi fa, portati qualcuno a Guantanamo, qualcuno giustiziato, e sono stati sostituiti con dei cloni. Cioè, io... E questo ritorna un po' a quello che dicevamo, non so, che forse era l'altra sera a Runtime di Notte con Francesco, no? Cioè, io posso capire, noi che siamo della generazione di X-Files, possiamo capire che ci possano essere delle, come posso dire, l'idea della cospirazione, esatto, la dietrologia, l'idea della cospirazione, ma quando la cospirazione c'ha un senso, no? Cioè, nel senso anche fantasiosa, ma che comunque abbia delle basi, no? Qui stiamo veramente, cioè, uno si sveglia la mattina e dice le peggio puttanate che solo il Signore sa, ma perché veramente, cioè, proprio a casaccio. E ci sarà sempre qualcuno che ci crede, e non solo ci crede, si incazzano pure. Io mi ricordo la famosa fake news del fatto che a Torino stavano aprendo le chiese sataniste, no? Questo uno su Facebook indignato, che schifo, fermiamoli. Ho detto, guarda che la notizia è finta, cioè, io ho linkato le varie cose. Ma che potrebbe diciamo essere vero. E lui ha detto, no, non fa niente, fa schifo comunque. Cioè. Vabbè, ma la gente è così. No, invece, ragazzi, a proposito di complottisti, di personaggi opinabili in America, eccetera, voi sapete chi è Irving Baxter? Irving Baxter? Chi no, è? Però posso googlarlo se vuoi. Te lo dico io. Irving Baxter è un televangelista televisivo, quindi un imbonitore televisivo di quei tipi. Aspetta, sì, non mi spoilerare, che di quel tipo di cui parlavamo prima, che si è reso famoso in questi ultimi tempi perché accusava i gay di essere i portatori del Covid. Ebbene, è morto di Covid. Per proprietà transitiva è diventato gay. Esatto, probabilmente, però dopo essere morto, di sicuro se l'è presa nel culo. E quindi così, insomma, tanto per dire che poi alla fine il karma, ragazzi, il karma ci dà sempre tantissime soddisfazioni. Vabbè, ma sto Irving Baxter era quello che diceva che il sacro romano impero sta per risorgere? Cioè, che ne so, ragazzi. Prima di tornare, almeno io e Puccio dobbiamo dire però quello che ha concluso, la ciliegina sulla ciliegina sulla ciliegina sulla ciliegina, sulla ciliegina, sulla ciliegina, sulla ciliegina, sulla ciliegina, sulla ciliegina. C'è stato un momento meraviglioso ieri. Vabbè, io la prima notizia l'ho avuta da una pagina Facebook che è Social Media Epic Fails. In realtà poi sono finito su Twitter e l'ho letta dalle fonti primarie americane. Cioè, che è successo? Credo di aver capito, sì. Sì, immediatamente dopo che CNN, Fox e ABC hanno dato la notizia che date le telefonate che avevano avuto dai governatori dei vari stati che confermavano le varie attribuzioni di seggio, Biden aveva vinto. In quel momento Trump ha chiamato il suo team di avvocati nella persona di Rudy Giuliani e ha detto: voglio fare voglio che facciate una conferenza entro 2 ore al Four Seasons in cui annunciate che faremo i passi legali in ogni stato fino ad arrivare alla Corte Suprema. Adesso, in 2 ore, prenotare un albergo dove credo un albergone a 5 stelle affidabile 300.000 euro, una roba del genere. Dove la stanza basic costa $500 a notte, euro. Quindi questo è importante. Ma oltre a questo, c'è anche un altro problema che poi faceva notare un giornalista di ABC, è che quando il Four Seasons ha ricevuto questa telefonata, hanno immediatamente fatto presente che non erano nelle condizioni di poter dare la sala in così poco tempo, ma pare ci sia anche un problema economico. Cioè pare che il comitato elettorale di Trump abbia lasciato degli insoluti in giro. Però come una lega qualunque. Ma per via. Tutto il mondo è paese. Allora, non è chiaro poi esattamente che cosa è successo dopo, se qualcuno ha fatto un errore oppure c'è una cosa un po' più complessa alle spalle. In pratica, resisi conto che il Four Seasons non era prenotabile, hanno cercato un altro Four Seasons. Quello che hanno trovato è un'agenzia che fa lavori per i giardini con un ampio parcheggio che a volte affittano, pare talvolta anche alle produzioni televisive per fare le scene nei sobborghi delle città. Nessuno si è preso la briga di controllare questo posto dove fosse, hanno visto solo che si chiamava Four Seasons e l'hanno prenotato. Qual è il problema? Diciamo anche che quelli di questo luogo non è che si sono posti il problema di ma perché il presidente? No, ma cioè quello che gli ha risposto è uomo dell'anno, assolutamente. Cioè, quello che si è soprattutto si è strappato una parcella adeguata, insomma. Sì, no, pare che comunque i soldi li abbiano chiesti in anticipo e li abbiano pure avuti. Insomma, qualcuno ci ha guadagnato in tutto questo. E secondo me hanno votato per Biden quelli lì. Sì, no, io lo do per scontato, assolutamente. Insomma, che cosa è successo? Questo posto sarà sicuramente un'azienda in salute, gestita da persone per bene, però si trova non in periferia di Filadelfia, di più, e si trova esattamente tra il centro per le cremazioni di Filadelfia e un sexy shop chiamato Fantasy Island. Proprio esattamente a metà. Poi Matteo, mettiamo il link di Google Maps. Che cosa è successo? Nessuno ha avvisato Giuliani di dove cazzo leggerissimo errore, sì. No, di questo cambio di destinazione, perché secondo molti non è stato un errore, hanno cercato un altro Four Seasons, però non hanno, comunque a causa di un errore. Pare che Giuliani a un certo punto abbia chiesto all'autista: ma perché ti stai fermando qui? E lui gli ha risposto: perché dove mi hanno detto di portarla. Poi ha capito, è rientrato in macchina, ha fatto un cazziatone biblico al telefono e uscito. E ha tenuto questa conferenza a stampa davvero. E qui però bisogna battere le mani, perché però c'aveva una faccia nera che sembrava sì. Che grazie al cazzo, cioè, una conferenza per arrampicarsi sugli specchi in più, voglio dire. No, anche grazie al cazzo, no? però devo dire che tutto sommato, nonostante tutto, c'hanno una tenacia incredibile, cioè, hanno fatto finta di niente tipo per 20 minuti. Poi siccome pare che i giornali si stessero ridendo guardandosi intorno, te credo. No? Comunque io penso è la fine indignitosa di una storia indignitosa, cioè veramente sì. Ragazzi, è qualcosa di E secondo me nelle prossime settimane continueranno a regalarci motivi per fare UGM. Assolutamente. Il bello è che già ci stanno capitalizzando al Four Season Total Landscaping, così, e infatti stanno già producendo magliette, già ci sono i meme con scritto Make America Rake Again, fate rastrella, oppure Lone and Order. Sono veramente dei... comunque Rudolf Giuliani è passato da alleato e collaboratore di Giovanni Falcone a avvocato di Trump delle cause perse. Cioè, ma Rudolf Giuliani, che se prende 2000 euro ogni 10 minuti che sta là, pensa quanto potesse essere un alleato disinteressato. Esatto. Vabbè, questo noi non lo possiamo sapere. No, gli avvocati in America, raga, l'avete visto, lo sapete. Oramai ma lui non lavorava come avvocato. Quando no, era procuratore. Era procuratore di New York. Se andate su Prime Video, hanno messo tutte le puntate di Law and Order. Io, siccome al di là di tutto è un procedurale molto bello, a me è sempre piaciuto, al di là della retorica che ci sta dietro, in 2-3 episodi compare lui, più giovane, più magro, e comunque ti dà l'impressione di una personalità politica, perché poi è stato per molti anni sindaco, ben voluta, che i newyorkesi amavano, vederlo ridotto così. Beh, devi considerare che un procuratore in America è una figura politica, perché i procuratori vengono eletti dalle persone. Ha fatto comunque anche è comunque ricordato come un personaggio importante per la lotta alla mafia dal punto di vista internazionale, quindi c'è comunque già. Diciamo che era l'anello di congiunzione tra Cosa Nostra e la cupola americana, non lo so, non lo voglio accusare di essere colluso, no, infatti, però dico, personaggio un po' particolare. Ho capito, vabbè, allora non parliamo più, lasciamo stare. Cioè, nel senso, è normale che... Voi dovete capire che Michela se la prende a prescindere. No, ma non è che me la prende a prescindere, ma noi non possiamo effettivamente, no, vabbè, quello era colluso, sappiamo. Per me era sempre stata una persona ambiziosa. Se è comunque una persona che ha in qualche modo collaborato e raggiunto dei risultati come quelli, non lo voglio difendere, perché non lo so difendere, però io dico guarda come eri e guarda come sei. A un certo punto forse... Ma magari era sempre così. Non lo sappiamo. Sentite, senso... poi magari vi do il link. Un giornalista dell'NBC, mi pare, molto contestato poi dopo questo articolo, che aveva fatto proprio un lungo estratto dicendo perché dobbiamo superare il concetto di Rudy Giuliani, e parla di quando era sindaco di New York, quindi anche durante il periodo dell'attentato alle Torri Gemelle, eccetera, eccetera. E ricorda tutta una serie di cose dicendo ce ne siamo volute dimenticare, però Giuliani era anche quello che tagliò da sindaco il finanziamento a chi faceva assistenza alle classi più deboli, alle associazioni di volontariato che facevano recupero per gli ex carcerati. Fu quello che voleva sospendere le elezioni a New York dopo gli attentati, perché comunque sapeva che non si poteva ricandidare e voleva prorogare la carica di sindaco per un altro anno. Cioè, fa presente i precursori di quello che è diventato, c'erano. I segnali ci stavano tutti. Ma dobbiamo sempre... Mi ha fatto pensare quando si parla di Giovanni Lindo Ferretti, che dicono è diventato fascista. Se lo ascoltavi bene da prima, le basi c'erano. Siamo noi che ce lo siamo dipinto in un'altra maniera. No, ma poi dobbiamo sempre considerare che in America tutto funziona in maniera diversa, dall'essere procuratore all'essere avvocato di un grande studio o anche dall'essere politico. Comunque in America sono dei meccanismi che sono similari probabilmente anche a quelli che ci stanno da noi, ma anche totalmente diversi, su dimensioni diverse. In America, se non sei una persona ambiziosa e anche un po' figlio di puttana, cioè anche merda, secondo me non arrivi da nessuna parte. Perché per emergere in determinati ambiti devi riuscire a essere bipartisan per certe cose e allo stesso tempo anche veramente scafato e gran fio di puttana, insomma. Questo ce l'ho sempre avuta, st'immagine. Non penso che, voglio dire, lui probabilmente... Devi essere a rivista, oltre che... Ambizioso, devi essere ambizioso. Una persona fortemente ambiziosa e poi oggi... Come ovviamente in America non c'è spiraglio di sconfitta, cioè di fallimento. Tra l'altro, se fallisci sei morto. Fired, come dice. Ma io su questo non sono esattamente d'accordo. Cioè, di gente che ha fallito e poi è ritornata in pista, ma rimaniamo anche nell'ambito che poi si conosce un po' a me. Ma Trump è l'esempio lampante, ragazzi. Trump, vabbè, però Trump c'ha i miliardi, raga, cioè, onestamente... aveva fondi a parte. Poi dall'altro è riuscito a gestire anche l'eredità che non era sua, ma anche quella di uno dei due frati. Vabbè, insomma, è una storia complicata. Però pensate, cioè, pure Jobs, cacciato da Apple, ritorna alla carica, finanzia Pixar, diventa un colosso, si riprende Apple. Cioè, il fatto che se fallisci sei morto, io quello forse lo vedo. Però scusa Puccio, permettimi Puccio, secondo me a volte la storia si può leggere in due modi diversi. Secondo me non è Jobs che si è ripreso Apple, ma è Apple che nel momento in cui ha deciso di fare delle politiche a cazzo di cane è diventata una società di merda e hanno detto oh, ricchiappamoselo perché qui stiamo... Tra l'altro proprio questo volevo dire, quando Steve Jobs si è ripreso Apple e poi ha venduto la Pixar alla Disney per avere il capitale per poi riprendere in mano il controllo reale di Apple, lui è rientrato in Apple grazie ad una bolla speculativa che era Next, perché Next di fatto non c'era, non esisteva, cioè era molto poco, non era un'azienda avveniristica, aveva questo cubetto che era un cesso di computer che funzionava anche male, ma ci ha costruito attorno un sogno talmente grande che in qualche modo è riuscito a farsi rimettere al centro della scena, ma in realtà ha comprato in senso lato, è rientrato in Apple dalla porta principale ma con la fuffa, eh. Il sogno americano è esattamente quello. No, i soldi li ha presi da Pixar, sì, i soldi li ha presi dalla vendita di Pixar, non dal fatto che Next. Tra l'altro Next la fece assorbire da Apple e sparì. Perché tante delle logiche di Next anche a livello software comunque alla fine sono finite in Apple, quindi cioè, alla fine, ma alla fine fu una è stata un'integrazione, non è che l'hanno fatta sparire, insomma, diciamo così. No. Però non esiste come marchio, cioè quante aziende di informatica hanno mantenuto marchi diversi. Cioè, loro no, Next è stato... No, vabbè, perché Apple è sempre stata monolitica, no? È stata la chiesa della grande mela. E anche lì, insomma, ci sarebbe da dire. Comunque, io direi a questo punto di fare anche un salto un po' dalle parti nostre, perché... Ma adesso io non c'ho il contributo, perché in realtà me l'aveva fatto sentire Michela, ma poi ho lasciato perdere. Però c'è stato un sivarietto bellissimo tra due donne che noi, io penso, qui dentro stimiamo tutti. Ossia Barbara D'Urso... E Giorgia Meloni. Ah sì. Non so di che state no, parlando. C'è una pagina che seguo io che è trash italiano. Ho visto solo un pezzetto, ma veramente qualcosa di terribile. E vabbè, cioè praticamente a un certo punto la D'Urso, io l'intervista non ho seguita, praticamente ho preso solo sto pezzo che tra l'altro ha selezionato la pagina per tutti gli utenti, in cui la D'Urso praticamente gli dice così alla traditora, però alla fanno sta bella intervista alla fine, esatto, alla sembra fine che è tutta sorridente la Meloni e c'ha un sorriso a mille denti. E allora la D'Urso gli dice: senti, però ti prego, com'è che si chiama la Meloni di nome? Giorgia. Ti prego, una cosa la devi fare assolutamente, non ostacolare la legge sull'omofobia contro l'omofobia. E praticamente la Meloni è diventata blu, si è congelata. Cioè, no, io non ho mai visto una persona cambiare espressione. Nel tempo di tre fotogrammi, penso. Sì. Cioè, in tre frame. No, allora, uno, la D'Urso gliel'ha fatto proprio alla traditora sta cosa, e vabbè, poi diceva, e mentre glielo ripeteva, perché non è che l'ha detto solo una volta, glielo ha continuato a dire, no, però, capito, mi raccomando, ti prego, E Meloni, che si stava complicato. Un attimo a riprendere da sto odio, da sto cringe che gli è salito, a un certo punto fa, non si può mica riassumere, è complicato. Insomma, vabbè, ma chissà che è successo dopo. Mi sarebbe piaciuto sapere quello. Non lo so, io non seguo. Un lesbo, sicuramente, ragazzi. Non un lesbo, sicuramente. No. Però, adesso, insomma, se ci riesco, magari a Salvini, ovviamente no, a Berlusconi, ma men che meno. Ma probabilmente neanche a Salvini l'avrebbe fatto questo sgambetto imprevisto. Ecco, non lo so. Ma Berlusconi sto mettendo sulla chat. Così la potete vedere. Sì, lui basta che si fotte. No, vabbè, ma al di là dell'argomento specifico, dico che pure se non ascoltate l'audio, basta vedere la faccia, perché cioè veramente cambia espressione proprio in un modo. Batte il sopracciglio? Sì. Una paresi totale. Walter, secondo te quello è un errore 404, elemento non trovato? Deng. Errore forbidden. Schermata blu, ragazzi. Quella è proprio la schermata blu di Windows, signor presidente. È uguale. È panic, ragazzi. Sto vedendo, è bellissimo. È tipo, cioè, vi giuro, è tipo Andreotti quando collassò durante la diretta. Ah, ma non gli ha potuto menare perché era in collegamento da casa. Se no tirava fuori il manganello per l'occasione, quello lo sfollagente da borsetta, Giorgetta. Siamo tipo al meme, Dio ti prego. Cioè, ma poi, ma sta donna che sta in televisione, sta cazzo di D'Urso che rovina il mondo, e vabbè, però la gente le guarda, no? Ma sta sempre in televisione, ma come funziona? Io non c'ho... Guarda, Michela... In televisione, esatto, te la riassumo dicendo che tutto quello che tu vedi non è botulino. È marmellaggio. Scusate, io ho paura di fare una domanda allora, perché vabbè, adesso magari neanche tanto, però possiamo dire che la D'Urso, una giovinezza di un certo tipo, ce l'ha anche avuta, bella donna, ok. Ma allora, se l'equazione è esattamente questa, Barbara Palombelli a chi la sta dando? Cioè, perché... L'ha già data. Ma chi, cioè... Ha un pezzo grosso. Adesso non mi... Mamma mia, ho capito, ma cioè, non è che ti ispira poi più di tanto, con tutto il rispetto. E quella sta veramente tutto il giorno in televisione. È? Perché io la conosco. Inizia ma è che è la moglie la moglie di Rutelli. Ah, vabbè. Data Rutelli. Ma quella capirai, ma quella da moglie che sta... Non è più nessuno da un pezzo. Lui, ma tu sei sempre che non è nessuno da un pezzo, Rutelli. Ma zitto. Lui è Cortina da un pezzo anche un po'. Sì, è vero, da un pezzo che è Cortina. No, perché lei sta in televisione tipo 6 ore al giorno in diretta, perché fa forum su Canale 5 prima di pranzo, poi dopo pranzo fa forum su Rete 4, poi fa la diretta la sera sempre su Rete 4. Ma che cazzo gli è rimasto? Ho capito, rimasto. Però... Ad Urso. Capito, però vabbè, è rimasto vabbè, ad Urso e a Balombelli, punto, è finito, e Maria De Filippi, punto, sono finito. Balotelli. Non vedo l'ora che la TV lineare faccia il suo tempo e venga condannata a morte per mancanza di ascolti, perché veramente basta. No, però dico, io volevo raccontare un po' questo fatto, mi ha fatto molto divertire, perché avrei chiamato questa puntata, se fosse stato per me, l'avrei chiamata Patonza Patogena. Sempre molto elegante. No? Esatto, e mi riferisco a un'esternazione che ha avuto il presidente Lotito parlando, perché sai, ci sono un po' di problemi legati alla questione dei tamponi in Serie A, interpretazioni diverse, tamponi contro tamponi, eccetera. E a un certo punto Lotito, probabilmente infastidito da tutta questa storia, ad un giornalista, non so bene a quale fonte, ha dichiarato, parlando del positività, non positività, perché c'era un solo antigene a cui il calciatore Immobile della Lazio era risultato vagamente positivo, dice basta però con questa storia, i batteri stanno ovunque, persino nella vagina di tutte le donne ci sono i batteri, questo non vuol dire che siano dannosi. D'altronde, allora, da un certo punto di vista c'ha ragione. Quelli sono i batteri buoni, però anche nell'intestino ci sono i batteri, ma anche in bocca. Però io direi, al di là del fatto che il corona è un virus, quindi stendiamo un velo su questo tecnicismo qui da poco. Ma lui non è che gli hanno fatto la domanda sul virus, capito? Cioè, gli hanno fatto la domanda sulla molecola M, e quindi dicevano: ma allora, e lui ha interpretato. Vabbè, comunque quella è una storia un po'... Io la cosa non l'ho trovata ancora, però visto che ne hanno parlato, quindi... Però sto cercando di trovare, se riesco a trovare proprio il contributo, perché sarebbe divertente, insomma. Comunque, insomma... Cioè, diciamo che te viene in mente? Oddio, non ci avrei dato il titolo da puntata, Diana, una cosa del genere. No, vabbè, insomma, vabbè, però insomma... No, perché mi ha fatto proprio divertire questo parallelo tra... Vabbè, la fregna, di parole... vabbè, c'era in quel momento stava a pensare alla fregna... Vabbè, buon per lui, insomma, poi spero gli capiti spesso. Può succedere. Invece c'è un contributo che invece voglio far sentire, perché questo è abbastanza importante. È la versione breve, però è una cosa che in un periodo come questo, dove stiamo veramente affrontando una tragedia a livello globale, e dove comunque un qualsiasi organizzazione, organismo anche a livello istituzionale, dovrebbe essere unito per combattere questo tipo di problema, c'è ancora gente che non lo so. Io non... Simone, no, era semplicemente che bisogna ridere, bisogna un po' ridere, bisogna un po' allentare le cose. Ci ridiamo sopra, prenderla. Esatto, è la linea comica. Ci dobbiamo ridere sopra, hai ragione. Sentiamo la linea comica, dai. zona rossa, dove è difficile sapere addirittura il numero delle terapie intensive esistenti. Prima del Covid la Calabria aveva 107 posti di terapia intensiva. Adesso quanti sono? Poi lo dovreste vedere in faccia. Sta dicendo che i posti in terapia intensiva oggi sono 214? Sono 150 già attivati, ma siamo pronti ad implementarli ancora. Adesso non mi ricordo esattamente il numero. Ma le dico io che il numero vero è 113, secondo quanto dicono tutte le strutture sanitarie che hanno in carico queste terapie intensive. Noi adesso lo verifichiamo, il dato esatto, dottore. 280 sono i posti che il piano nazionale prevede che la Calabria debba avere in terapia intensiva. Arcuri aveva detto fate i bandi entro il 3 novembre. Di questi bandi non c'è traccia. Adesso stiamo verificando che si siano fatti. Quindi non ci sono. Ma adesso non mi sono ancora documentato, ma le do la risposta al stretto giro, capito? Questo è uno che non, fatti entro il treno non sa neanche parlare, capito? Cioè, nel senso, sì. Hai visto quando te becca la professoressa? Ci sono. Quanti posti letto di terapia intensiva? Lo sta chiedendo alla segretaria. Marì, secondo il nostro. Quelli che hai previsto nel piano, quelli che ha preso nel piano li sappiamo. Quindi non mi faccio fare la figura del coglione là, dottore. No, beh, cioè. Ma io voglio sapere, non quelli che sono previsti nel piano, quelli li so. Io voglio sapere quelli che sono attivi oggi. Voglio sapere quanti posti letto di terapia intensiva. Già attivati, lo sapete. Ci sono oggi. Oggi. 55 posti letto attivati, per un totale di 161. La fonte di... Allora, ragazzi, questo... Questo che parlava alla fine, vabbè, questo... Però io volevo sentire la parte in cui dice... Era prima. Cioè, lo so, però questa è la versione short, perché altrimenti avrei dovuto prendere il filmato intero e scegliere il punto, che sarebbe stato un po' più disagevole, perché lo sto a fare con lo smartphone. Però dovete considerare una cosa, che quella che parla all'inizio, cioè quando la prima persona che interviene, è la segretaria. Che... No, lo sappiamo in realtà se è la segretaria, è Maria. Per noi è Maria, vabbè, ok, è Maria, che però poi nella versione integrale di questo video chiaramente gli dice che lui è un coglione perché la doveva far finita di presentarsi impreparato. Quindi cioè, non è manco la prima volta che questo si fa fare un'intervista e poi non sa neanche cosa dire. E tra l'altro... barbettando come quando la professoressa ti fa la domanda alla cosa che tu non sai e cerchi di far fugliare una cosa per non state zitto in pratica. L'ultimo, quello che interviene, che dice che sono stati attivati 55 posti su 160, a un certo punto il giornalista gli dice ma lei chi è? È il responsabile? È un responsabile? Cioè, no, io sono l'usciere. Allora la regione Calabria, tra l'altro, è del mestiere. Aspetta, fammi finire perché poi dopo dite la vostra, così chiudo proprio io il mio pensiero. La regione Calabria si incazza con il governo centrale perché per 10 anni la sanità in Calabria è stata commissariata, ok? E lo è tuttora. Chiaramente si incazza perché dice ok, se mi commissari non mi puoi mettere questo tizio qui che era il commissario straordinario della sanità in commissariamento, chiaramente. Però se io vedo il meccanismo di come funziona dentro quella stanza, al di là di lui che non sapeva un cazzo, tra l'altro ex generale dei carabinieri e che era stato messo lì dal vecchio governo Conte, quindi con la complicità di Lega, insomma, e via dicendo, alla fine io quello che mi dico, cioè in una stanza dove una segretaria e un usciere, quindi la persona che sta lì e sicuramente prende soldi per fare cose che non sono quelle che dice lui, perché sicuramente prenderà anche la pensione di invalidità, proprio sparo proprio a zero, no? Cioè, voglio dire, è il sistema che funziona così, non va, potete prendere con l'altri, cioè, se in Calabria state messi così, cioè, questa è la mia opinione un po' razzista questa volta, scusate, però vai Walter. No, io vabbè, credo che su questo caso, sul primo commissario che abbiamo visto, che poi si è dovuto dimettere in attesa del licenziamento, non ci sia altro da aggiungere. Uno che ti dice, perché poi il succo che non abbiamo ascoltato nel contributo è stato quando questa lui ha candidamente ammesso di non sapere che era sua responsabilità la gestione dell'emergenza Covid, no? Perché questo poi l'ha scoperto in quel momento. Ragazzi. Esatto, scoperto quando gli ha detto il giornalista, è trasalito. Tant'è che adesso sta cercando di giustificarsi dicendo che in realtà prima di quell'intervista forse era stato drogato, non si sentiva bene, ne sta dicendo di tutti i colori perché è come Trump, no? E c'è stato il complotto. Quello sciacallone di Giletti là. Esatto. Che Giletti ha detto: lei ha avuto il coraggio di venire qua e di ammettere questa cosa. Sì, io non ero me stesso, non so che cavolo mi è successo, ma mi lo sto cercando Giletti, con un medico. Che mi hanno fatto per si chiama figura di merda. Esatto. Allora, tra l'altro, ragazzi, nel video completo, io non saprei neanche dove linkarlo, dove questo giornalista fa una sorta di inchiesta su com'è la situazione Covid negli ospedali in Calabria, dove intervistano persone e fanno vedere, cioè, in che modo poi anche i medici e tutti quanti si comportano, chi si spoglia davanti ai pazienti, chi usa la stessa vestiario che usa dai Covid e vanno pure nei reparti non Covid. Insomma, raga, qui c'è un problema che prescinde dal commissariamento. Sì, ma infatti poi quello che volevo dire per chiudere, che la cosa che mi ha rattristato di più è che il successore designato questa volta dal ministro della salute Roberto Speranza pare non essere tanto meglio del cacciato, perché anche lui ha avuto l'ardire, questo a maggio, quindi quando del Covid già si sapeva qualcosa di concreto, è riuscito a fare dichiarazioni del tipo: ah, ma per prendere il Covid bisogna limonare con la lingua per 15 minuti. Se vuoi c'è il contributo di 49 secondi, decidete voi se metterlo o non metterlo, poi... Ma se è quello che dicevamo, credo che meriti. Sì, sì, è lo stesso. Zuccatelli, Giuseppe Zuccatelli, il nuovo. Il sostituto, questo è il sostituto, ragazzi. Se non c'è la mascherina, non si fa assolutamente nulla. Le mascherine non servono a un cazzo, ve lo dico in inglese stretto, ok? Sapete a cosa serve? No, adesso te lo dico io. Sai cos'è che serve? La distanza. La distanza! Perché per beccarti il virus, se io fossi positivo, tu sai cosa devi fare? Devi stare con me e baciarmi per 15 minuti con la lingua in bocca. Altrimenti non te lo becchi il virus. Capito? Tanta gente che no, ma la cosa grave è che quando poi è emersa questa intervista, vabbè, Speranza si è difeso dicendo che ma non si può giudicare un'intera carriera da una sola dichiarazione irresponsabile, anche perché data quando ancora non si sapeva bene cosa fosse il Covid, cosa debunkata subito questa mattina da vari giornalisti, tra cui David Puente, che ha dimostrato che questa intervista si è tenuta non a marzo come si sosteneva, ma a maggio inoltrato, quindi quando di Covid se ne sapeva fin troppo e che quindi non si doveva, certo, non si sarebbe mai dovuta dire una cosa del genere. Quindi tu hai scelto di liberarti di una persona, di un cialtrone, per metterci un altro, uno peggio. Esatto. Sì, questo è un po'... Ma è perché evidentemente i personaggi che girano sono quelli, cioè, e nell'emergenza di dover sostituire una persona con un'altra persona, magari gli hanno detto: guarda, questo va bene, che poi questo non è manco calabrese, poi tra l'altro. Liberato. Cioè, sì, però esatto. ha fatto subito il piano pandemico regionale della regione Calabria. Vietato limonare oltre i 14 minuti e 59 secondi. Non lo so, Michela, tu che ne pensi di questa cosa? Cioè, ma bei personaggi. Sì, no, nel senso che comunque i personaggi già c'erano, purtroppo ci sono delle responsabilità oggettive. Secondo me non è un caso che il Piemonte, la Calabria e la Lombardia siano state da subito zone rosse. Secondo me l'hanno fatto diventare zone rosse per la completa incapacità di fa un dispetto, perché come dice Libero, il governo odia il nord. No, il governo anche la Calabria odia. Che è il nord. Nord. No, secondo me, cioè, nel senso, loro sanno praticamente è quello che sarebbe accaduto se avessimo avuto ancora il vecchio governo Conte con Salvini al Ministero dell'Interno, e quindi è lo specchio di quello che sarebbe accaduto in tutta Italia, quello che sta accadendo principalmente in Calabria, perché comunque, ma un pace all'anima sua, insomma, però anche la governatrice della regione che ci ha lasciato, come, scusa? La Santelli. Sì, che ci ha lasciato da poco, c'ha delle responsabilità oggettive. No, lei addirittura mandò una lettera al governo lamentandosi del suo fatto che la sanità è ancora commissariata da 10 anni E perché lei gli permette di sbloccare dei fondi che poi possono manipolare il problema. Guardate, ragazzi, sai lì quanti ci avrebbero magnato, come se sbloccava, esatto, subito. La sanità è proprio il piatto da portata delle regioni. Vabbè, è la stessa è la stessa cosa che hanno fatto, che ne so, nel Lazio. Nel Lazio, diciamo che l'apice della sanità, della mala sanità, credo sia stata durante l'epoca di Storace e Polverini. Sì, non vorrei sbagliare. Polverini, sì. Però voglio dire, anche Zingaretti una sistemata in parte gli era data, ma insomma non è che ancora brilliamo per efficienza, no. Però insomma il discorso è che veramente è il discorso è che io non vorrei essere un malato Covid in Calabria, questo bisogna dirlo, dai, su, perché manca a Milano, no, ho detto non vorrei essere un malato Covid in Calabria, ma la realtà è che noi Roma, cioè, Simone, cioè io in realtà vorrei essere un malato Covid, allora, comunque, no, cioè. In realtà però quello che voglio malato. Dire è che purtroppo, cioè per fortuna purtroppo si rivela che la Calabria è quello che è, ma secondo me, cioè, non pensate che la Lombardia sia messa meglio, cioè ci sono delle cose in Lombardia, ci sono dei segnali d'allarme. Hanno mangiato in maniera palese. Sì, ma adesso con l'emergenza Covid, con l'emergenza Covid non la stanno, cioè è totalmente ingestita la situazione. Scoppiano focolai dovunque e incontrollati, e soprattutto non c'è una persona alla guida della regione che c'ha il polso della situazione e che si mette lì a cercare di capire qual è la reale situazione e quali sono le cose, sì, da fare. Perché c'è il partito liberalista, liberale. Allora non l'hanno commissariati, i soldi gliel'hanno dati, l'hanno spesi tutti. Lo spritz si può fermare. No, ma è così. No. Al di là del partito dello spritz, cioè proprio la gestione dei fondi, la stanno gestendo in modo... È un sacco di camici, ho letto. Ragazzi, è il modo leghista di gestire i fondi, non è che ci dobbiamo nascondere dietro un dito. Il problema è che se vivono dei camici bianchi e loro hanno provveduto. Cioè, il problema è che secondo me se avessero fatto la stessa intervista a Fontana, Gallera ci ha regalato delle perle, ecco, apposta. Quindi... Waller, si pronuncia Waller. Oppure è lo specchio. Esatto, si pronuncia Galera, sì, anche. È lo specchio della gestione assurda e totalmente rispettosa poi di quello che è il malato, perché per ricordiamoci che se l'indice RT è 0,5 ci vogliono due persone per infettare me. È una persona e mezza, capisci? Cioè, ste perle ce siamo giocate tutte. Sì, ma io ribadisco, ragazzi, secondo me, allora, in certe regioni si tratta di mala sanità, in altre regioni si tratta proprio di un disegno politico. Cioè, quindi è proprio una volontà però politica. In certi casi si tratta anche di imbecillità applicata. Ma l'imbecillità ha sempre fatto parte di un certo tipo di area. Insomma, perché poi lì, dovendo acchiappare un po' tutti, acchiappano chiaramente il bresciano che dice che Neger va a zappare a terra, capito? Cioè, nel senso... Comunque la Zanicchi mi sa che sta parecchio male. Mannaggia la miseria! Ma gliel'ha anche trasmesso, mi sa, Berlusconi sto COVID. Mannaggia la miseria, la Zanicchi! Ma ricordate quella scena che si è cagata sotto in diretta? Cioè, no. Come no? Oddio, che non ce la fa più, è scappata e poi si è messa a mezzo in tutti i divani, si è tirata giù... Allora, non si è mai capito se fosse vera o no la scena, però, cioè, quindi, se non fosse vera, io non... mi dovrebbero aver dato tanti miliardi per aver fatto una cosa del genere, insomma. E noi in Campania lo sappiamo bene. E a proposito di che cosa, zio? Di quello che diceva chi di noi? Zio, perché sanità. Vedi, quando si parla di merda... Di mala sanità. Vabbè, sì. Comunque, ragazzi, io direi che siamo stati abbastanza sul pesantino. Se vogliamo alleggerire, perché sono le 22:30. L'unica cosa, abbiamo il vaccino che ne voglio parlare. Il vaccino, vai. Che tra l'altro, il vaccino che puta caso, ragazzi. Io non voglio, cioè, sì, cosa bella. E qui io gli dico questo e poi sto zitto perché penso che dicendo questo ho detto tutto. Il vaccino che guarda caso. Puta caso è stato scoperto dall'industria farmaceutica. Insomma, ragazzi, infatti, domani vado dal calzolaio qua in centro. Gli dico: io non ho capito che cazzo fai tutto il giorno, che non sei riuscito a scoprire un vaccino, cioè, non vabbè, lo so. Comunque, ragazzi, ma non a scoprire, dire, scusa, diciamo, scusa Walter, poi è uscito così, sì, al, sì, sì, scusa Walter, secondo solo, una cosa sola, però vi lascio veramente la parola. Non a scoprire, ragazzi, non si tratta di scoprire, a trovare, capisci? E io mi immagino tutte queste persone, il calzolaro, l'usciere, il bidello, tutti in giro a cercare il vaccino perché a trovare il vaccino e poi vaccino. Chi è che lo trova il vaccino, guarda caso? Fa un po' tipo il... quello che il matto col Tom Tom che cercava la madre. Vabbè, storia che purtroppo racconteremo. Vai Walter, scusa che t'ho interrotto. Un account sicuramente di quelli che... È un parody, non è serio. Poi la gente però ci crede. Ragazzi, non è un parody, è quello che volevo sottolineare. Sicuramente è un troll di quelli che vogliono aizzare certi tipi di reazione, ma non in maniera goliardica. Cioè, non è uno di quei troll che vuole evidenziare la stupidità. È uno di quei troll che vuole manipolare un certo tipo di utenza. Oppure no, una persona stupida. Cioè, ma mi sa che era stato messo per prendere in giro. Guarda, io quando vedo certe cose, a volte lo spero. Cioè, lo spero per noi. Speranza. Proprio per l'umanità. Io, ormai sono molto disilluso. Però vabbè, dai, parliamo di questo. Scusate, io poi dopo vi saluto perché che me ne vado. Che ci sia gente che lo pensa e che scrive ste cazzate... assolutamente, ce ne stanno a frotte, però a volte quando vedo sti post così che vengono in evidenza, secondo me, che diventano anche virali, secondo me c'è anche un po' un gioco sotto, nel senso, e ci starebbe anche, tutto sommato lo troverei anche divertente, insomma. Scusate, io volevo solo ricordare una cosa, poi me ne vado, ma non lo salutate Stefano D'Orazio, nessuno gli fa un coccodrillo. Insomma, beh, una cosa importante. Non è che ce ne freghi molto, tutto sommato. Davvero? Chi è? A mappa, un pezzo di Pooh, la seconda O. Saluta dei cariatidi più cariatidi che ci stanno. E... insomma, questo è... cosa succede, fratellini? È andata così, fratellini. Vabbè. La cosa che posso dire è questa. Vabbè, io vi saluto. Ciao. Ciao amici. Pizzi, senti, ma una cortesia, ma non è che per caso, no? Per caso... non è che hai un estratto del nuovo video di Angela di Mondello? Pensavo stanno a bere guardie. Allora, a parte che sapete la storia, sì, a parte insomma... che stanno a bere guardie, però onestamente io non c'ho il link. Se me lo mandate lo possiamo mettere. No, probabilmente il mio computer si rifiuta. Però ragazzi, cioè, io ho cercato di evitare proprio d'andarci, cioè nel senso. Però vedo qualcuno. Non è che va sul link loro, non penso che esista ancora un video. Cioè. E vai sul link del giornale che l'ho postato, quindi si può anche fare. No, praticamente è tornata a Mondello per girare il video. Il video, capito, ragazzi? Il video. Cioè, beh, lì qualche produttore locale che voleva speculare, cioè, insomma, magari gli ha promesso la, come dire, la paghetta e lei ci sarà stata, insomma, subito, molto semplice. Subito ha fatto dei fan perché subito le forze dell'ordine le hanno fatto una multa e una segnalazione, una denuncia perché ha fatto il video senza mascherina, ovviamente. E si andrà sul penale. Sì, è lì, adesso arriva anche la denuncia penale per tentata per strage colposa. Che poi posso dire, veramente, anche per offesa all'intelligenza. Posso dire che io non me la sento neanche di prendermela con lei. Perché secondo me lei è, cioè, al di là della stupidità della prima volta in cui pensava non ce n'è Covid e via dicendo, no? Anche quando ha aperto... c'è anche un video, il Covid dice cioè, tutto ammalato. Tra l'altro. Sì, cioè, ma poi qualcuno ha pensato bene, ripeto, approfittando del fenomeno mediatico che è diventata per qualche tempo. Sì, anche perché lei quando aprì il profilo Instagram, che sicuramente l'ha fatto fare qualcuno, perché... cioè, capito, nel senso che comunque 150.000 iscritti nell'arco di pochissime ore... quindi tutta una serie di determinate cose. Chiaramente poi lei fece quella specie di video, anche lì secondo me sollecitata da qualcuno per dire oh dai, cioè nel senso non di stronzate, no? E però poi secondo me dopo alla fine è ricaduta nel ma ti ho detto, secondo me non è manco lei, perché è proprio che secondo me ne manco ci arriva, cioè c'ho abbastanza st'idea che non ci arrivi. Sì, insomma. Probabilmente a fronte della visione di una forma di guadagno tra virgolette facile, di un momento di successo, di un momento di notorietà, si è fatta convincere, ha detto vabbè, Vediamo, perché adesso se qualcuno si offrirà di sostenere le spese legali che lei dovrà sicuramente affrontare, perché la denuncia poi porterà un processo e tutto il resto, bene, altrimenti peggio per lei, perché finirà, come si dice in Trentino Alto Adige, contenta e coglionata. Insomma. Sì, anche perché poi lei ha dei precedenti penali, quindi non è, insomma... Davvero? Sì, sì. No, questo non lo sapevo. Sì, c'è lei, il figlio, lei addirittura fece falsa testimonianza proprio perché il figlio è tipo mezzo criminale, da quello che ho capito, insomma. Quindi, sai, ah, vabbè, insomma, quindi l'estrazione sociale... L'ambito è quello, insomma, quindi purtroppo poi anche... Con la buona volontà, secondo me, chi cioè, nel senso, magari non riesce a uscire da un certo tipo di contesto, comunque ha commesso un errore prima, dopo magari lo paghi dopo, quando fai magari una cazzata, perché mo, ok, ha fatto il video senza mascherina, ok, è una cretina, ok, però insomma, voglio dire, non è essere cretini una colpa verso l'umanità, insomma, alla fine, no? Però paghi poi magari comunque tutto il resto, insomma, perché che poi a un certo punto diventi presidente degli Stati Uniti lì diventa un casino. Attimo. Vabbè ragazzi, sapete che vi dico? Aspetta, però volevamo dare questa notizia scusa, vai. Diciamo ottimistica del vaccino, perché la Pfizer ha dichiarato che ci sono buoni riscontri nella fase 3 della sperimentazione, che dovrebbe finire tra qualche settimana, e si conta di avere le prime 50 milioni di dosi di vaccino pronto per il fine dell'anno, e poi più di 1 miliardo di dosi nell'arco di tutto il 2021, e quindi si ha questo tasso di affidabilità portato individuato intorno al 90% di questo vaccino, che è un dato che secondo l'OMS e secondo l'FDA americana è più che positivo, tant'è che entrambi gli enti sarebbero stati disposti a certificare un vaccino anche con solo il 50% di efficacia, quindi questo a dimostrare di quanto bisogno spasmodico ci sia dietro a questo vaccino. Io però c'ho una domanda. Un attimo, volevo però chiusare appunto con una considerazione che a me preoccupa di più dell'efficacia stessa, perché essendo un vaccino basato su RNA messaggero è molto delicato, e quindi fondamentalmente se non si trova un modo diverso di conservarlo, questo vaccino deve essere mantenuto alla temperatura costante, non di più, non di meno, di meno 80 gradi centigradi fino al momento della somministrazione. Quindi questo capite che diventa un grosso 70, problema logistico, perché meno 70 è più facile. Vabbè, però vale per tanti farmaci, tanti farmaci biologici, diciamo, questo farmaco può restare per 5 giorni. No, aspetta Marco, 5 giorni in temperatura no, in realtà da quello che leggevo io, poi magari abbiamo letto fonti diverse, però no, io ho sentito un virologo, però va bene, il concetto è che stanno cercando un metodo per mantenerlo stabile a 4 gradi centigradi, che è la temperatura tipica di un frigorifero che si può trovare anche a casa, ma anche dallo studio medico o dal farmacista, perché altrimenti il problema grosso è che i frigoriferi adatti a conservarli li trovi nei grandi ospedali, non li trovi in una logistica più puntuale. Secondo quindi te poi Binzu ce l'hanno? Beh, meno 80 non credo, ecco. Beh, oddio, l'abbattitore forse a meno 80 magari no, ma... Ma l'abbattitore è acceso sul momento, non è costantemente acceso a quella temperatura? Peccato. Credo, non lo so, non ci ho mai avuto un abbattitore. Però in ogni caso, a me la cosa che è piaciuta di più è che neanche un'ora dopo questa dichiarazione, pum, spunta Putin alla Russia: ma anche noi abbiamo il vaccino che è valido. Eccolo, al 90%, e forse anche di più, non ve l'avevo detto, però in realtà... Ragazzi, ma tra l'altro avete sentito questa tesi di questo istituzionalista russo che ha dichiarato che, secondo fonti tutte da definire, Putin sarebbe gravemente malato, qualcuno dice Parkinson, e quindi potrebbe lasciare l'incarico a fine anno, inizio 2021? Al suo clone, però. È una notizia che è passata in sordina, sia perché le fonti erano abbastanza contrastanti, sia perché ovviamente si parlava, anche secondo me è stato il vaccino, delle elezioni americane, però insomma la notizia è passata, ecco, diciamola così. Ma sì, buttiamola là. Comunque io non ho capito, c'è un vaccino che è efficace al 90%, significa che su 100 persone a 90 si immunizzano e l'altra che gli succede? No, aspetta, è un po' più complicato. Quel 90% devi tenere presente che la platea di persone su cui l'hanno testato tenderà a essere varia. In mezzo ci saranno anche persone immunodepresse, persone più anziane, eccetera, eccetera. Quel 10% è il vaccino non ha stimolato la risposta immunitaria che ci aspettavamo. Quindi vuol dire che in persone su cui magari anche i vaccini, capito, tradizionali già avrebbero fatto poco effetto perché magari hanno un sistema immunitario compromesso, anche questo potrebbe non stimolare una reazione immunitaria adeguata. È quello lì, è esattamente il delta di quasi tutti i vaccini. Tra l'altro un altro dato importante è che questo vaccino al momento è stato dichiarato idoneo per l'utilizzo tra i 16 e mi pare gli 80 anni, una cosa del genere. Quindi la mia domanda è, i minori di 16 anni, che sono quelli che si portano poi il virus a spasso? No, aspetta, è sempre legato al fatto del gruppo di controllo. In pratica ti stanno dicendo quello perché la fascia di età su cui l'hanno testato è quella lì. Okay, perché però... non puoi prendere minorenni sotto i 16 anni per fare quei trial. In realtà già 16 anni fa è strano. E non puoi prenderli più di 80 anni, quindi cioè combacia. Okay. Però quando combacia. Dovranno decidere l'età minima di somministrazione, glielo danno, dicono di altri fattori. Lì poi sono le varie associazioni, i vari enti nazionali che sovrintendono al rilascio dei farmaci, che diranno sulla base di tutta una serie di altre considerazioni, che però non saranno la prova in vivo. Vabbè, insomma, dai. L'abbiamo detto, tu Simone mi sa che volevi dire qualcosa? Non mi ricordo, ma no, è la domanda che ho fatto prima, quindi okay. A posto. Vabbè, allora andiamo. Io direi di fare così, guarda, semplice proprio. Ah, quell'argomento lì, più lì che lì. Questa sera, prima di parlare dell'altro argomento, parliamo dell'argomento più western. Esatto. Della serie western per eccellenza, Star Western, che in realtà poi Star Wars è un po' western, insomma, se lo porta un po' dietro sta cultura un po' Sergio Leoniana. Anche perché gli ambienti, quelli desertici pseudo fantascientifici, erano i più economici da riprodurre negli anni 70 a cavallo con gli 80, quindi sì, beh, oddio, sai, negli anni 70 spostarsi e andare in Tunisia con tutta la troupe, non lo so come, però onestamente con gente in mutande rosa. Io sai che veramente la storia di Star Wars la conosco poco, cioè nel senso conosco i film e tutto quanto, ma non mi sono mai documentato su come era la storia della produzione, insomma, era un particolare. Beh, comunque il primo film in assoluto l'hanno fatto veramente con pochi soldi. Sì, sì, quello sì, quello che... abbastanza artigianale, è vero. Mm-hmm. Comunque, parliamo di The Mandalorian, che è arrivata, insomma, la sua seconda stagione. Che ricordiamo vuol dire il mandolinaro. Il mandolinaro, esatto. Infatti lui spara col mandolino. E, casco perché sotto ha i baffi. Vabbè, basta sì, però. In effetti ce li ha. Sì, ce li ha. Comunque, questa seconda stagione si differisce dalla prima perché le puntate sono mediamente più lunghe, a quanto pare. Anche se sì. Guarda che sono allineate, Pizzo. Questo è 33 minuti. 33 però. Minuti, va bene. Guarda. O a guardi, non gli toccate i dati precisi perché sennò si incazza. Cioè, state buoni. No, sono le stesse. Abbiamo visto due puntate. Abbiamo visto una di 50 minuti e una di 33. Quindi poi vediamo, no? Cioè, nel senso. Comunque, in linea massima, diciamo che siamo sullo stesso livello, anche a livello produttivo e qualitativo estetico, sì, della prima stagione. Hanno speso pure un po' più dei soldi. Probabilmente sì. Nelle prime due puntate, probabilmente sì. Probabilmente sì. Non metto in discussione. Diciamo che la prima puntata parte un po' così, la seconda puntata già è un po' più avvincente, però fondamentalmente secondo me la piega della serie rimane un po' quella, no? Nel senso, parliamo insomma di una serie che dal punto di vista narrativo ci vuole di fino a un certo punto, nel senso, ma è stata studiata proprio così, ma da un punto di vista visivo è qualcosa di veramente bello da vedere, non c'è niente da fare. Un lavoro... è un prodotto quasi più cinematografico, diciamo che a livello di effetti speciali va oltre la media, vero? Beh sì, sì, rispetto alle serie televisive, sicuramente è un livello cinematografico che televisivo, secondo me. Se in certe scene, soprattutto nella seconda stagione, quando cominci a vedere Baby Yoda che cammina, che gattone, eccetera, cominci a vedere qualcosa che ti sconfinferà un po' meno, però insomma dai. Perché non gli possono fare le gambette, secondo me. Deve essere quello lì. Una volta ci avrebbe pensato Frank Oz, adesso non lo so. Per quanto il team di Frank Oz, che è sempre interno Disney, tutta la produzione Muppet, la roba che stanno pubblicando su Disney Channel fatta con i pupazzi, comunque è ancora di livello altissimo. Sì, no, assolutamente. E che credo che qui invece si sia scelto, non credo che ci siano gli animatroni di Baby Yoda, quindi no. ma se vedi anche i documentari che stanno su Disney Plus, ti fa vedere quando Pedro Pascal sta a fare con le rotelle che lo segue, su cui poi incollerando Baby Yoda in post produzione. No, di Practical Effect non c'è, Baby Yoda non c'è niente. Formigone, quello è un animatrone. Sì, comunque. Sì, quello è un animatrone. Molte cose sono... È un animatrone di Ant-Man, tra l'altro, però vabbè. Vabbè, dai, sì. Tra l'altro questa puntata c'è lo stesso regista degli Ant-Man, Peyton Reed. Infatti per quello l'hanno messo. C'era sì la citazione probabilmente, sì. Beh, tutto sommato magari non era cioè magari era anche voluta la cosa. No, è voluta assolutamente. Sì, sì. Vabbè, comunque tenete la specie di Baby Yoda lontana dalle uova. Sì, perché mamma mia, un imbarazzo. No, veramente tenetelo lontano da qualsiasi cosa che si magna, perché nel senso vabbè, ma deve crescere, poverino, dai, è l'età dello sviluppo. No, però, però alla fine mi è stato un po' sul cazzo, la seconda puntata, perché c'era pure impunito, insomma, ora ti do due sganazzoni mortacci tu. Ma non lo fa anche io, non lo farei incazzare comunque. No, però devo dire divertente il fatto che hanno scelto un approccio alle razze mostruose abbastanza diretto. Sono rimasto un po' meravigliato. Possiamo dire di che parliamo o è spoiler secondo voi? I ragnoni mi hanno meravigliato, ecco. Chi? I ragnoni mi hanno meravigliato. I ravioli, ho capito Star io. Star Wars, e per essere televisivo e per essere Disney, li hanno fatti con una certa, non ti dico la vecchia Shelob del Signore degli Anelli, però insomma, mettevano la loro soggezione. Ma sai che inizialmente quel design, quella specie là era stata disegnata per comparire nell'Impero colpisce ancora su Dagobah, poi hanno recuperato questo design per la serie adesso, però già è una cosa degli anni 80. No, no, d'accordo, però che l'abbiano fatto in una serie televisiva con il rating per tutti mi ha un po' essendo Disney ad averlo fatto. Prende una piega horror molto efficace, cioè davvero piega horror orde. Beh, mette un po' di ansia quando vedi i Baby Yoda che cammina in mezzo alle uova, sì. Già lì comunque capisci un po' l'andazzo, anche se soprattutto perché sei magna, quindi secondo me ha profondamente compensato invece l'altro personaggio a cui il Mandaloriano dà un passaggio, quindi all'aliena che mi stava profondamente sul cazzo. No, vabbè, poi piace. Vabbè, poraccio, cioè, alla fine quando prende la voce del droide. È grande. Capito, perché all'inizio che ormai tutti questi personaggi alieni antropomorfi anziché no, che parlano con queste lingue arcane fatte quasi di suoni, che in confronto veramente il Klingon è una lingua complessa, dopo un po' stufa. Però, allora si vabbè, però questa è un'icona di Star Wars. C'è anche scherzato, perché lui gli chiede, parli la lingua degli Hutt, che insomma proprio... Ma cioè, però questa cosa delle lingue e dei suoni, diciamo, è proprio fa parte proprio dello scheletro di Star Wars. Però è quell'ingenuità che un po', per carità, è divertente, però mi suona un po' anacronistico. Un universale, cioè ci sono magari, però non è che vengono utilizzati. No, però se tu vedi tanti parlano, infatti. Tanti capiscono le altre lingue, lui per esempio, cioè nel senso, invece di fa come fanno sempre sui film di Star Wars e gli risponde nella lingua comune, lui dice no, io non te che c'è, nel senso la lingua tua nago. Sì, sì, perché esatto, di solito cosa succede? Che uno ti parla nella sua lingua fatta di suoni strani e tu gli rispondi con la lingua standard e vi capite reciprocamente. Allora parlate tutti la lingua standard. Vabbè, magari qualcuno non può, tutti può sì, sì, beh, la spiegazione potrebbe essere che non sono in grado di riprodurre quei suoni, certo. Comunque non c'è molto da dire, devo dire la verità, nel senso che la sensazione è sempre positiva, perché guardarlo è bello da guardare, non c'è niente da fare, e forse lo guardi anche soltanto per quello, insomma, perché ti riporta un feeling, una cura al dettaglio. Esatto, ti porta il feeling delle Guerre Stellari, è vero. Che poi tra l'altro, quando mentre guardavamo con Gualdi che camminava lì nella grotta ghiacciata, pensavamo alla scena di Luke appeso quando arrivava quella specie di orso bianco, no? Cioè, nel senso, la scena era molto simile, no? Nel senso che invece ci ha avuto, secondo me, ti richiamava quella cosa per farti dire, vedi, invece poi dopo escono fuori i ragni, insomma, che è figa. Ma... proprio pure la scena che alla fine compromette, tra l'altro, gli compromette anche la nave, no? Se ci pensiamo bene, insomma. Sì. Troppo comunque resistito. Ragazzi, piccola chicca se lo volete sapere, piccolo racconto su uno dei personaggi minori di questo episodio, uno dei due piloti di X-Wing, credo esattamente quello con i baffetti, quello col è in realtà Dave Filoni, che è il produttore e creatore della serie insieme a John Favreau, e nonché l'animatore di tutto Star Wars Clone Wars, Star Wars Rebels, eccetera. Quindi è un anche cameo non accreditato. Anche l'altro, se non sbaglio, non è un... Io credo che siano stati entrambi i personaggi cameo. Io non vorrei dire, ma secondo me sono gli stessi due X-Wing della puntata, quella della nave prigione, se non mi sbaglio. Sì, sono gli stessi. Infatti, secondo me il fatto che c'è il richiamo, vabbè, loro poi lo dicono: tu sei stato nei pressi della nave prigione. E lui scappa. No. Devo dire la verità. Che c'è anche un ammiccamento tra lui e la Repubblica, cioè nel senso, comunque il fatto che lui si fa amico sti due, in qualche maniera secondo me ritornerà, poi diciamo amico è una parola grossa. Vabbè, dai, comunque la prossima volta, quella, ora non te secca, ma la prossima volta la cantina, quella dove c'è anche il formicone, è quella fedi da cantina. No, non sono a Mos Eisley, lo dice. No, non è quella, però sono tutte un po' simili, ecco, come sì. McDonald's, visto uno, visti tutti. C'è il franchising che era un franchise, sì. Esatto. Invece avete visto l'R5? Sì, il resto di R5. No, quello che ne resta del resto. No, il droide, quello lì che volevano vendere a Luke, che poi esplode. Sì, viene offerto. Quello rosso. Esatto. Sta praticamente a bordo della nave dei nanerottoli, come si chiamano? I Jawa. Che però funziona, ancora con il motivatore bruciato tutto intorno, se lo vedete, però sai che su quel droide c'è, cioè, una storiella su un albo a fumetti di Star Wars scritta da Alan Moore, quello di Watchmen, di Before Vendetta, in cui spiega che quel droide, quell'R5, è uno dei pochi droidi sensibili alla forza, e quando è stato rapito dai Jawa e ha incontrato R2, ha percepito che doveva essere R2 a finire in mano di Luke, e si è praticamente suicidato per fare in modo che fossero quei due droidi ad andare. Carta sprecata per fare la carta igienica. No, è che Alan Moore piaceva trovare giustificazioni di tutto, no? Questo prima ancora dei midichlorian, ovviamente. Sì. Comunque è chiaro che è anche un'opera costruita per sperimentare tecniche cinematografiche, cioè, perché da un certo punto di vista si vede proprio il lavoro che c'è dietro, proprio il feeling cinematografico che io ritrovo comunque anche nell'altra serie, insomma, importante, che adesso andiamo ad affrontare. E parliamo chiaramente di Star Trek Discovery, che anche questa ha raggiunto la sua terza stagione, una stagione che tutto sommato si salva già in partenza, secondo me, sul fatto che vanno ad affrontare un'epoca storica totalmente bianca, non possono creare iati, esatto, non possono fare grossi casini, si possono inventare qualsiasi cosa, tra l'altro loro sono l'unica nave in un contesto dove i lunghi viaggi a lunga distanza non si possono fare, che si possono spostare più o meno un po' dappertutto, insomma. Sai cosa mi ha fatto sorridere? Proprio che in un momento in cui hai avuto a disposizione una tela bianca, quindi potevi riscrivere da capo tutte le consuetudini di Star Trek, potevi innovare come e quanto volevi, perché appunto per la prima volta non rischiavi di sbagliare ad ogni passo, paradossalmente sono tornati a quello che è il format un po' più classico di Star Trek, cioè ok, c'è una trama di fondo lineare che viene seguita episodio dopo episodio, però si è scelto, almeno nel secondo, nel terzo e nel quarto episodio, di avere delle trame autoconclusive molto classiche, quindi con lo sbarco, l'equipaggio a terra, in un contesto diciamo di missione di sbarco, ecco appunto, e per poi chiudere quella trama sullo stesso episodio e lasciare eventualmente qualche piccolo strascico per la trama principale. Però ecco, veramente il meccanismo che si vedeva nella serie classica, Next Generation e così via. Sì, magari lo vediamo, forse anche vediamo un attimo com'è la prossima puntata, perché in realtà anche in questa puntata, pur essendo autoconclusiva, e comunque sì, finalizza... hanno lasciato delle tracce. Sì, ripeto, non è totalmente autoconclusiva come no, ma non solo per la sì. Cioè, il fatto è comunque è finalizzato al fatto che loro stanno a cercare la federazione, quindi stanno affalleati praticamente. Cioè, nel senso che loro vanno su lo possiamo dire, loro vanno su Trill non soltanto per aiutare la ragazzina, ma perché gli serve a loro per fare la missione poi fondamentalmente. Però sì, diciamo che è un posto format abbastanza, anche qui io veramente in linea di massima posso dire non c'ho molto da dire di Discovery, se non aspettare da arrivare un po' alla fine per farsi un attimo un'idea. La paura mia, sai qual è? Proprio questa, visto che sono serie brevi, perché credo che saranno quanti? 12 episodi? Penso. Quando vedi che sei a un terzo della serie, ancora non è stato detto niente di significativo, cominci sempre ad avere la paura di ok, ma non è che poi se la sbrigano tutto all'ultimo come al solito? Sicuramente, perché poi dopo, adesso loro enfatizzano molto questa questione della federazione, della ricerca della federazione, ma secondo me vedrai che quando troveranno la federazione è una merda. che non c'ha confini, quindi, basta, esatto. Perché comunque bisogna capire quello che vogliono fare. Premesso che hanno già confermato che ci sarà la quarta stagione, questo prima ancora della seconda della terza, potrebbe essere tutta una stagione preparatoria alla prossima. No, dobbiamo capire se vogliono lasciare le cose come stanno e quindi una Discovery nel futuro, nel futuro remoto, o se vogliono farla tornare indietro. Allora, noi abbiamo osservato una cosa, però penso l'avete osservata anche voi, perché noi nelle prime due puntate ci siamo fatti una domanda relativa a Calypso, ok? Che è lo short track che noi pensavamo fosse collegato, poi in realtà abbiamo visto che non è lo stesso personaggio, è un altro negro. Però in realtà nella terza puntata succede un evento che in qualche modo si ricollega a Calypso, perché l'intelligenza artificiale comincia a diventare senziente. Quindi in realtà noi sappiamo che la Discovery poi dopo andrà mille anni ferma in un po', ma non sappiamo mille anni da quando, quindi noi secondo me un po' l'errore all'inizio è stato sul fatto che noi consideravamo i mille anni dall'epoca normale, cioè nel senso invece in realtà magari è mille anni da però adesso. Cioè. Io faccio anche il ragionamento che poi per carità potrebbero aver cambiato idea nel frattempo e quindi non essere più ragionamento valido, però io continuo a segnalare che sulla Discovery c'era Giorgio. Sì, c'è, sì. Che doveva essere la protagonista di uno spin-off completamente diverso. E vabbè, e quindi sarà un problema che se porranno quelli dello spin-off. No, può anche darsi che se lo so già dimenticato, sezione 31. No, in realtà no, hanno fatto un'intervista recentemente. Lo fanno con lei, magari. Sì, sicuramente. Che da quello che sappiamo è il mezzo Klingon che in questo momento che adesso è il capo della sezione 31, che è la cosa più irrealistica dell'universo, ma vabbè. Però, sai, alla fine sappiamo che nella sezione 31 finiscono gli emarginati, gli strani. Però diciamo che essendo una sezione molto particolare non ci metti quello che in quella fase storica è ancora visto come un nemico della federazione, perché non siamo in una fase in cui l'impero Klingon e la federazione sono alleati, quindi sì, diciamo che non lo sanno in molti, siamo ecco giusto. Però anche salvato diciamo la galassia, quindi tutto sommato puoi giocartela sta cosa, tutto sommato. Chissà. Comunque vabbè dai, un episodio tutto sommato, forse personalmente è quello che mi ha gasato di meno di quelli che sono stati trasmessi finora, anche perché siamo tornati un pochino indietro col meccanismo narrativo, tutta la parte di ricerca a Trill e tutto quello che ne consegue, senza raccontare dettagli, forse era leggermente il riferimento a delle meccaniche abituali di Star Trek, era anche azzeccato, però era forse rispetto a quello che abbiamo visto in queste stagioni anche un pochino più melenso, un pochino meno emozionante. Personalmente un episodio che non ricorderò come memorabile, però insomma ci sta. Ah, memorabile no, è carino il discorso del cerchio, del rito del cerchio, del fatto che lei comunque quando rincontra secondo me quello che piace a me adesso di questo Star Trek in generale, poi dopo in alcuni casi lo fanno bene, in alcuni casi lo fanno male, è che oggi la tecnologia e l'immaginazione ti permette di costruire quello che nel passato non avresti mai potuto, no? E quindi potevi noi solo raccontare, esatto, magari. Quindi noi sappiamo delle cose perché sono state sempre raccontate, però poi non le abbiamo mai viste. Il fatto che in qualche maniera la fusione, la grotta dei simbionti, sai, tutta una serie di determinate cose che comunque alla fine noi sappiamo che c'è, però non è che abbiamo mai approfondito. Ce l'ha mai fatta vedere, esatto, come la Frey fino a un certo punto. Comunque la storia, anche dopo Discovery, questa stagione di Discovery è la storia degli Stati Uniti, che sono divisi adesso e devono essere curati. Ma anche un po' la Brexit, forse più, io ci vedo più la Brexit che gli Stati Uniti in questo momento. Io spero solo una cosa, ragazzi. Io spero solo che gli sceneggiatori non si siano fatti prendere troppo la mano da questa opportunità, che poi diventa quasi grottesca, di saltare di palo in frasca e di viaggiare a tempo zero da un punto all'altro della galassia con il motore a spore, perché a me già l'animazione che hanno scelto dalla prima volta della nave, che praticamente gira su se stessa come in un cartone animato giapponese per far capire che salta, a me francamente quell'animazione lì in particolare fa venire proprio l'ulcera. A me non piace proprio il design della Discovery da fuori, però vabbè, io sono strano. No, a me piace invece. Però al di là di questo, io spero che non facciano troppo abuso di questa opportunità che la Discovery ha. Assolutamente, quello è il fulcro di tutto, l'unico modo per viaggiare a curva, a super esatto, curva. Esatto, sì. Ho capito, però che nessuno ci viaggia. In un ambiente dove non puoi uscire da un settore, magari dei nostri generazionali. Però se vi ricordate del fatto che proprio perché soprattutto nella prima stagione questa cosa del salto del motore a spore gli era scappata un po' di mano, sembrava che volessero nasconderla sotto al tappeto con la scusa non ci sono più tardigradi, basta, non c'è più collega, invece no, avevano come ricollegarlo con la linea temporale, però adesso l'hanno bypassata, cioè, c'ha più senso adesso che prima, comunque, cioè, il fatto che comunque oramai stai lì, però vabbè, sai. Secondo voi il problema è mentre se fai cioè nel senso in questa stagione qua di questa serie qua, cioè c'è poco, dobbiamo accettare determinate cose, partite da quello, insomma, fino adesso la serie sembra abbastanza decente tutto sommato, c'è solo sta melensità di fondo che a volte è un po' troppo didascalica, però insomma cerca di puntare molto su sta cosa dell'enfasi della federazione, di restaurare la federazione, cercare questa sorta di vecchio mito, questo mito che rappresenta poi un ideale, no? Quindi alla fine è un po' c'è questo tentativo. Sì, qua. Però effettivamente intorno a Bormann c'è questo effetto, come se la fotografia di Bormann la facesse Duccio, perché appena la inquadrano smarmellata, no, più che smarmellata è patinata, no? più che smarmellata la trovo troppo patinata, sì, però sì, esatto, vabbè, quello è, diciamo, proprio l'inquadratura alla Beautiful, quindi sì, del cuore. Fa un po' sospettare questa cosa, però intanto lei però è molto bella, cioè, con questo nuovo taglio di capelli sì, è più interessante, è più interessante, una bella donna, veramente sì. Bella, sì. Allora la cerco. Sapevo io. Sonica Martin Green, Martin sì. Green. Vabbè, comunque a parte insomma, quando c'è il rossetto verde, però vabbè. Dai. No, però comunque, dai, io insomma, devo ragazzi, dire ragazzi, c'è da vedere perché i personaggi carismatici non mancano. Guarda, il mio personaggio carismatico in eccellenza è diventata la biondina sul ponte. Ma allora, ragazzi, io su sta cosa Marco lo sa perché io ero un porcazzo ogni volta, cioè alla lui dice c'era anche l'altra stagione, forse c'era anche l'altra stagione, però da so tre puntate che non fanno altro che inquadrare sta biondina sul ponte, poi lei non dice mai una parola, però la inquadrano in continuazione. Non sappiamo neanche il nome. Esatto, io gli dico Marco, ma questa qua no? Che la inquadrano sempre, chi cazzo, ma soprattutto, ma chi deve essere per stare lì? Perché si è liberato il sedile dell'androide che è morta, no? Ah, sì, può essere che posto. Ah, sì, l'ha preso a posto suo. È vero. Ok, però tu me la inquadri talmente tanto spesso, sta ragazzina, che senza fargli dire neanche una parola, che addirittura la siamo ritrovata al pranzo dell'equipaggio centrale. Vabbè, perché fa parte dell'equipaggio di Plan. Ma fategli di qualcosa, cioè, nel senso, o se no sta lì perché poi fa rotto. Esatto, se no è la figlia del produttore quella, cioè, ma dai, magari, forza. Che ti devo dire? Ma magari è previsto che tra un paio di puntate gli dicono muore. Vedi quella bella tutina rossa, provatela un po'. Esatto. Potrebbe anche ce l'abbiamo. Esatto. Comunque, vabbè, dai, diciamo che faccio una domanda però. Secondo voi i vulcaniani, no, dopo mille anni, se saranno rotti il cazzo della logica, saranno tornati a uccidersi tutti, cioè, a orge di sesso, no? No, a uccidere e scannare gente come si faceva un buon tempo quando c'era l'ira, com'era, la rabbia vulcaniana? Sì, sì, sì, la furia vulcaniana. Beh, chi può dirlo, anche perché nel frattempo Vulcano potrebbe anche essere esplosa altre 7 volte, tanto ormai stanno tra Discovery e Picard hanno deciso di raccontare queste storie quasi mistiche dei mega disastri universali inspiegabili, quindi voglio dire, anzi, e questo un po' forse le cose in qualche modo si ricollegheranno tra loro, però vedere i due eventi raccontati in maniera così mistica e così in parallelo, prima su Picard e poi su Discovery, un po' mi è sembrata anche una strana similitudine tra due serie che comunque raccontano storie molto lontane nei secoli. Io chiuderei con chiudiamo proprio anche la puntata, insomma, che è stata abbastanza ricca e cicciotta stavolta, anche molto molto energica. Chiuderei con il Toto Federazione, cioè secondo voi dove sta la federazione? Io me ne sono fatta un'idea, È l'impero Klingon, no? Su Konos, secondo me sta su Konos. Non esiste c'è ancora Konos. E che ne so, si era spaccato in due, no? Si era spaccato in due Konos. Ok, vabbè, comunque secondo me adesso sono residuati dell'impero Klingon, stanno lì. Io invece penso che secondo me no. O sono diventati di nuovo furia vulcaniana oppure si sono uniti con i romulani, perché a questo punto fanno tutto un po' la grande riconciliazione, siamo senza casa, ci riuniamo. Sì, vabbè, ma la domanda che ho fatto io è un'altra: dove sta secondo voi la federazione? Te lo dico io. Vai. Sono tutti su Raisa Scopà. Può essere. Non puoi sentire. Senti lo senti? Sono qui. Sì, nel cuore. Al detto di Make Federation Great Again, dove è la federazione? È dentro di noi come il Darfur. Esatto. Vabbè ragazzi. Ragazzi, io direi che ringrazio e saluto Marco Gualdi con il suo microfono che nuovo, bello. Che a metà puntata è riuscito a padroneggiarlo, però dai, sì. siamo ottimisti per la volta prossima. Prolunga Pizzi, ti ricordo che abbiamo l'asset quello carino per la chiusura. Abbiamo anche dell'asset carino, non so quale sia, però sai, adesso mi coglio impreparato. Quello che comincia con un qual è? Mandamelo se c'hai una sezione. Te l'ho mandato oggi insieme al sottofondo jazz. Ah, il secondo sottofondo il jazz. Noir. Non sono preparato, mi dispiace. Ah, va bene, ho sbagliato. Ho commesso confusione. E vabbè, quindi ringrazio e saluto Marco Gualdi col nuovo microfono, che tra l'altro ci devi spiegare come lo tieni in piedi, perché questo è un po' tengo in mano, tutti i professionisti. Bravo, quindi tutta la trasmissione col microfono in mano, sai che esatto. Ringrazio e saluto Francesco Lobby Frontali. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. L'entusiasmo insomma, sempre importante. Poi tu sei un appassionato invece del Mandaloriano. Appassionato, ma guardi. Tu guardi con piacere, te lo guardi con piacere. Lo preferisci a Star Trek, diciamo la verità. Sì, no, non Star è che Trek lo preferisco, che non ho mai visto niente di Star Trek. Me ne frega il cazzo proprio. Cioè, quindi... No, non è che non me ne frega, me ne vorrà fregare, solo non è ancora il momento. C'è il tempo per Star Trek, vabbè, bellissima questa cosa. E ringrazio e saluto Carmine Puccio Console. Ciao a tutti. O Console. Con quante sole? Esatto. Parecchie ragazzi, veramente tante. Però il problema è che me le tirano, non so io che le tiro. E ringrazio e saluto ovviamente Valtor Sbanu. Buonanotte. Ringrazio voglio ovviamente. Che mi prendano. Non voglio che mi prendano. Voglio che mi prendano. E ringrazio anche Michela che nel frattempo se n'è andata a dormire. Ci vediamo lunedì prossimo. Oppure se ci riusciamo, domenica pomeriggio. Così magari tutti insieme qui in studio. Così ci si vede. Dove cazzo dobbiamo andare, ragazzi? Esatto. Tanto io se ho detto, io sono in lockdown da tempo. Da sempre. Io sono in lockdown da sempre. Perché è possibile che devo. Sì, possibile che devo dirle io le cose, che è uscita la seconda puntata di Book stamattina. Ah già, hai ragione. Tra l'altro ho fatto un esperimento, l'ho fatta direttamente live. Speriamo che sia venuta bene. Perché... Scusa, Simone, Book è l'amico di. No, Book è buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Oddio, scusate. Partito il pulsante. però ci stava. Beh, partito il pulsante, mi sono messo paura. Ti senti stesso tu nell'orecchio. Vabbè. Davvero inquietante. Buonanotte, signori. Ciao. Runtime Radio presenta. OGM.